Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Oramai va a rischio di parlare di bidè, di come si caga, se caghi in piedi, se caghi di lato, è una vergogna, è una vergogna. Altro che la marijuana, l'hashish, la cocaina, dobbiamo legalizzare la patata, Cruciani, la patata, e salveremo il mondo. La patata tira più della Confindustria, te lo posso assicurare. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, tenerezza, lui tiene sulla trasmissione, è una brava persona, ha preso quel taglio lì e va avanti così, però non offende mai nessuno. Cruciani non offende mai nessuno. Allora ragazzi, iniziamo con Adinolf questa sera, Parenzo, siamo ecco, qui ecco, sul ecco, pezzo, ecco. Iniziamo con Adinolf che sostiene, Adinolfi naturalmente, sì, che solo lo 0,03% della chiesa che pecca, cioè i pedofili sono una minoranza assoluta, è come dire vabbè... Sì, però sono una minoranza. Beh, amico mio, ma perché fare queste percentuali? Uno. Ma che ne vuol dire? Basta uno, perché lui dice c'è un'attenzione grandissima nei confronti dei pedofili della chiesa rispetto ai pedofili. Sì, ma quello, capito, cara Adinolfi, è normale, perché certo, da un prete uno non è che si aspetta che si inchiappetti, certo, i ragazzini, certo, si aspetta un altro tipo di insegnamento, un altro tipo di comportamento. È evidente che ci sono i pedofili, purtroppo, nella società. Dalla chiesa uno si aspetta altro. Come sappiamo ormai da tantissimi anni, non è così. Comunque, Adinolf. I religiosi, i sacerdoti, le religiose sono 4.958.000 e sono arrivate 1.200 denunce verosimili. Pur immaginando che ci siano su 1.200 colpevoli, stiamo parlando dello 0,03% del numero dei sacerdoti, religiosi e religiose sparse per il mondo. Meluzzi, preti pedofili come le SS nella Germania hitleriana. Senti questo ragionamento, giusto? Bravo Meluzzi, all'attacco! Ma se noi guardiamo a un fenomeno come il nazismo, per esempio, le SS, gli uomini della Gestapo, rispetto ai milioni di tedeschi che sono stati sfiorati dal tema dell'Hitler, della cultura hitleriana, erano una parte infinitesima, però questo non significa che non si debba esercitare una vigilanza, una condanna culturale, ideologica su un fenomeno che non è un fenomeno episodico. Allora ragazzi, la vicenda Lavagna, la madre del ragazzo che si è buttato dalla finestra. Sì, sì. E tutti esaltano, da Giovanardi in poi, tutti esaltano il discorso che ha fatto questa madre. Molti dicono un bellissimo discorso in chiesa, perché ha richiamato ai valori, non bisogna stare col cellulare in mano, non bisogna drogarsi, eccetera, eccetera. Io resto della mia idea. Chiamare la Guardia di Finanza, perché l'ha chiamata la madre all'inizio, la Guardia di Finanza, per risolvere un problema che è un problema di fumo, a mio parere non va fatto. Ma non è che io non lo farei, poi uno lo può anche fare, per carità. Se c'è il pericolo di un grande spacciatore in casa, furti in casa, io chiamo la polizia anche per mio figlio, per carità. Il problema è che non eravamo in presenza di quella roba lì, però non eravamo in presenza. Tu chiami la guardia di finanza, i panni della chiami madre, ma io chiamo un dottore. Non sapeva come risolvere, che magari non sapeva, cioè la doppia tragedia della madre che a un certo punto non sa come risolvere la cosa. Ragazzi, e pensa non mi convincerete mai che è bene chiamare la guardia di finanza quando vedete tuo figlio con qualche grammo. Bisognerebbe di... trovarsi nella situazione, purtroppo. No, certo, però io la guardia di finanza per pochi grammi di droga non la chiamo, anche perché poi passi dei guai, provvedimenti amministrativi, un casino. Capito? Cioè, per nulla alla fine, cioè, non è che questo qua era un grande spacciatore di marijuana a Lavagna, lì c'ha 15 anni, per carità, esistono pure gli spacciatori di 15 anni. Comunque, sentiamo la signora Riccardi. Un pensiero particolare va alla Guardia di Finanza. Grazie per aver ascoltato l'urlo di disperazione di una madre che non poteva accettare di vedere suo figlio perdersi e ha provato con ogni mezzo di combattere la guerra contro la dipendenza prima che fosse troppo tardi. Ma ragazzi, la dipendenza, io non lo so, poi magari ci sono delle cose che non sappiamo, magari era dipendente dalla marijuana, dall'hashish, ma 15 anni, non lo so, dipendenza è un'altra roba, però si intende di solito l'eroina, la cocaina come dipendenza, però ci sono anche le dipendenze da droghe leggere, per carità. Innanzitutto questo messaggio è per voi ragazzi. In ognuno di voi sono presenti dei talenti che vi rendono unici e irripetibili e avete il dovere di farli emergere e di svilupparli. Là fuori c'è qualcuno che invece vuole soffocarli, facendovi credere che sia normale fumare una canna, normale farlo fino a sballarsi. Normale andare sempre oltre. Ripeto, lo stesso discorso si potrebbe fare con l'alcol, con la gente che si ubriaca. Nessuno lo fa però per l'alcol. Nessuno lo fa e lo Stato incassa dei quattrini. Adesso io sarò di una posizione che in Italia è minoritaria, per carità, che è quella dell'antiproibizionismo. Però se è ammesso l'alcol, che fa danni decisamente superiore alle droghe leggere, diciamo. Siamo la verità. Siamo d'accordo, certo. E allora basta, e la gente si ammazza di alcol e nessuno dice niente. Non ci sono i grandi discorsi sul proibizionismo dell'alcol. Fa male bere, sì, qualcuno li fa certamente, ma io non voglio criticare la signora Riccardi, per carità. Anche se, ripeto, mi sembra bizzarro che uno la prima cosa che fa chiama la Guardia di Finanza. Però, bizzarro, che ne sappiamo di cosa ha fatto prima lei, non lo sì, sappiamo. Sì, magari avrà fatto altre cose. Giovanardi, diffondere il discorso della madre in tutte le scuole. È una delle persone più... c'è una querela, credo, aperta con Giovanardi da parte. Cioè, più ripugnanti, no? Vuoi dire? Più ripugnanti? No, voglio dire... Vorresti dire ripugnanti? No! Ma non lo vuoi dire? No, ma vorresti io dire dico ripugnanti, quello che mi pare, ma ti pare, vuoi dire? Vorresti dire ripugnanti, ma non lo vuoi dire? Non voglio dire ripugnanti, voglio dire che è una persona totalmente inopportuna. Ma perché? Si è occupato di droghe per una vita. È una persona inopportuna usare un caso di cronaca e farlo diventare un caso politico. Vabbè, l'ho ma detto che c'entra? Dai, questa è una stronzata. È inopportuno. Ma si è occupato di droga tutta la vita. Allora cosa fa? Usa il dramma di una madre, discorso di madre, per farlo diventare il Vangelo secondo Giovanardi. Dai, ma non c'entra niente questo. Dai, su. Comunque, sentiamo. E credo che in tutte le scuole italiane dovrebbe, una volta si diceva, andavano affissi ai municipi i grandi discorsi parlamentari. Questo dovrebbe circolare in tutte le scuole italiane, perché è una grande lezione che una madre adottiva, fra le altre cose, quindi per certi aspetti due volte madre di questo bambino, ha dato a tutti gli italiani. Ma la lezione qual è? Chiamare la Guardia di Finanza? Chiamare la Guardia di Finanza a un certo punto? Ma non lo so, può darsi che sia così, ragazzi, non lo so, a me non pare che sia così. Cioè, se mio figlio maneggia dell'hashish, della marijuana, non chiamo la Guardia di Finanza. Io non no, la chiamo. Io chiamo, che io ci parlerei, cercherei di capire. Ma magari ci ha parlato fu pure lei, non lo so, che cazzo ne so. I genitori sono eroici e la finanza ha fatto il suo dovere. Juvanard, sempre. La colpa la finanza, la colpa i genitori, perché la finanza era intervenuta troppo rapidamente. Ma state scherzando? Ma stiamo già tentando di criminalizzare quei due poveri eroici genitori e la finanza che ha fatto soltanto il suo dovere. Però ragazzi, il clou di oggi è un tassista romano. Un tassista romano, Cesare, che capeggiava la rivolta dei tassisti contro le nuove norme che forse verranno introdotte, che forse favoriranno Uber, l'alternativa al taxi, come tutti voi ormai la conoscete in molte città. Cesare, contro la senatrice del Partito Democratico Malpezzi. Senti, aria che tira. Siamo in diretta, ma io non parlo con la stampa in diretta. Ah, per quale motivo? Perché beh, non mi fido della stampa italiana. È amico di Di Maio. In diretta ha detto, posso dire quello che mi pare? È un amico di Di Maio, praticamente. Chi? Amico, no? Io sì. No, amico di Di Maio. Io sono amico di quelli che non parlano con la stampa. Perché non raccontate mai la verità. Siete abusivi, non potete governare. Il partito vostro non può più governare. Perché non rappresenta più nessuno. Mi piace che non voleva parlare, Cesare. Se la mattina alla sera rompete solo le palle a chi lavora. Allora, al di là del fatto che io... Basta, facciamo per rispondere in studio. Allora, in studio c'è il signor Merlino che conduce, Malpezzi, senatrice del Partito Democratico, PD, che certo. Spiega, cerca di spiegare quello che sta succedendo al Senato, e c'è questo tizio collegato, Cesare, tassista, ci sono tassisti in rivolta praticamente in tutte le città d'Italia, molte città bloccate, soprattutto i servizi, quelli degli aeroporti, ma comunque adesso non stiamo a raccontare la cronaca. Sentiamo ancora questo Cesare. Cosa dici tu su questi scioperi dei tassisti? Io sono sempre, ricordati una cosa, io sono sempre dalla parte dei tassisti, lo Stato vuole cambiare qualcosa, dia la licenza, abbia il coraggio. Quindi sei a favore dello sciopero dei tassisti che bloccano tutto. Io gli scioperi sono sempre contro. Però adesso che ci sono i nostri amici tassisti che sono io sono sempre a favore dei tassisti. No, io sono a favore dei tassisti in questa cosa con Uber, a favore a spada tratta, perché lo Stato... Quindi sei contro Uber? Assolutamente, se vogliono allargare le licenze lo facessero, si assumessero la responsabilità di allargare con provvedimenti di legge. Ma sarebbe giusto, tu che sei un vero liberista. Io ad esempio ce ne sono i di taxi, ce ne sono parecchi in tutta Italia. Io penso diciamo che la i tassisti verità. Devono essere indennizzati ad esempio del loro, assolutamente, del se loro allarghi, investimento. Se allarghi le però licenze è giusto, esatto, è giusto allargare le licenze, ma è giusto indennizzare i tassisti. Vabbè, che hanno investito entriamo, un sacco entriamo di troppo soldi. Nel tecnico andiamo perché è spinoso, sentiamo perché Cesare mio, ma no, perché è complesso, è complesso. E quando gli operai invece bloccano le strade, no, fanno io le sono proteste. Contrario ai scioperi sempre. E perché l'operaio contro l'operaio? Anche quelli dei tassisti, lo dico, sono contro gli scioperi. Sbagliato a protestare, no, ma lì si possono fare tante cose, non gli scioperi in mezzo alla strada. Questo penso io, ma glielo dico in faccia a tutti, sono dalla parte loro in questa battaglia, ma sono contro gli scioperi sempre. Allora mi devi spiegare, hai fatto la domanda e do una risposta. Sì. Posso? Prego. Allora, ti so di che t'avevo detto io all'inizio, che era una trappola. Perché questi con le chiacchiere ci fanno camminare i treni. Perché molti dicono: ma è un mille proroghe, masticarsi del mille proroghe! Tu lo fai chiamare come da fare! Faccio rispondere Simona Malpezzi, Partito Democratico, perché ho il sospetto che il partito... Ma per carità, manna al cinema quella! Deve andare al cinema, deve parlare! Che partito è questo? Ma lo devi spiegare! Da chi risponde sto partito? Alle logiche del popolo? Ce lo spiegherà Simona Malpezzi, Cesare. Che palla parlata, tanto a me non mi interessa quello che dice Simona. Vabbè, a me sì, la io sento io, sapere. Non ti preoccupare, me la sento io Simona Malpezzi. Va bene. Non è qualcosa di nuovo che viene inserito all'interno del comparto della normativa perché dello Uber Stato non, italiano. Non è una proroga, Uber, cioè... Senatrice, no, no. Io ho detto io non... Uber è una parolaccia, per me non sì, è come una te lo so. Per me non è una parolaccia. Allora io perché può lei lavorare? Usato, ma devi spiegare. Io per fare il tassinato ho bisogno di una licenza. Okay. Uber ce l'ha le licenze? Allora, no, allora per far tassinato! Cruciani, manda il traffico che devo fare un pompino. La Zanzara. Papà, diventerò qualcuno da grande? Diventerai qualcuno da grande? Ma guarda Cruciani e Parenzo, lavorano in radio, in televisione. Ma certo che diventerai qualcuno, se ce l'hanno quasi fatta loro tu diventerai uno scienziato, a differenza loro tu conosci pure i congiuntivi. Cruciani, se a letto duri come la borsa e il traffico, allora siamo a posto. Beh, vorrei precisare a questa gentile signorina, caro non Davide. Non c'è bisogno di precisare. No, dai, voglio precisare che il traffico e la borsa in realtà durano pochissimo. Perché ormai appunto, li ho terrorizzati. Questo sosteneva la signora. C'è stato un accerchiamento con il terrore e ormai durano pochissimo. Che poi invece è molto utile il traffico e la guarda, borsa. Guarda, giuro, quando io sono in macchina la prima cosa che faccio è vado a cercare le informazioni sul traffico. Beh, io il traffico, se sono in macchina, sì, cazzo, cosa devo fare? Vado sul cellulare, bene, amico mio. Non me ne frega niente, poi se c'è la fila, c'è la fila. C'è poco poi da io fare. Voglio sapere cosa succede a Cologno Nord. Voglio, anche se sto a Roma, voglio sapere, interessa i Yuri da, no, da Roma, vai Yuri, Yuri, Yuri che pieno di gente che si fa le canne, che ci fammi una tu ti fai le canne, che fai Yuri? C'ho scritto a belli, dimmi, a belli se le fa, se le fa. Questo è un cannarolo, Yuri, quante canne ti fai, dimmi, dimmi Yuri. Beh, allora sti giorni una alla sera prima di andare a dormire, per forza. Una alla sera, per forza, per forza. E ride. Secondo me l'hai già fatta una. La si è fatta adesso, ragazzi. No. Mo sto presa bene che sto a parlare con voi per parlare di queste cose. Io però dico una cosa, ragazzi, qui non si vuole fare l'apologia, perché qui andiamo a spiegarci bene, perché sembra che questa trasmissione sia la cosa libertaria, che tutti fanno, ognuno fa quello che vuole e nessuno dice fatevi le canne, io non lo dirò mai fatevi le canne, non lo direi nemmeno a mia figlia, figuriamoci, cioè, per cui non è questo il punto. E se uno però se le fa, ma va bene, ma chi se ne frega, grande libertà, va benissimo. Sì, ma infatti non è punito il fatto di farsi una canna, no. è punita la detenzione sopra una certa soglia, che andrebbe cambiata anche quella norma lì. Vabbè, Yuri, quante canne te fai, dimmi? Io massimo tre al giorno quando è libero, massimo, ma perché me doso pure io non so uno che beve. Però Giovanardi dice che il tuo cervello andrà in pappa prima o poi. Giovanardi è uno stronzo. Ma Giovanardi è uno stronzo, perché mo, con tutto il rispetto, lei, perché questo è un onorevole, quello che gli pare. Vabbè, però un po' magna su ste storie, cioè non si può. Sai che io me la prendo con la madre, perché quella è l'educazione che ci ha avuto quel paro figlio. Cioè, in che senso? La madre di Giovanardi, poveretto. Yuri, dopo tre cani ci spiega questo concetto, no? Questo vuol dire che la lucidità. No, sto ancora lucido e vi dico che sto al lavoro, perché. Vabbè, te la sei fatta una te la sei fatta oggi, no? Stamattina la rimanenza di quella di ieri sera. En passant. Un po' si sente. Vabbè, però, Yuri, allora Giovanardi, tu hai detto è uno stronzo. Perché è uno stronzo? No, ma perché non può mangiare su queste storie? Non può, che vuol dire, traduciamo da romanesco, cioè non può speculare. Dico quello che ha detto Parenzo, perché cioè questo sembra che approfitta di questa vicenda qua per farci politica. Ma quello non c'entra, ma quello fa politica, è uno che pensa che la droga non usi le parole della madre e poi parlarne sopra, non lo puoi fare. Ma quello che c'entra, ragazzi, e non portare la madre, che per me la madre è una colpevole. Ma in che senso è colpevole la madre? Scusa, è colpevole della maleducazione di quel paro ragazzo. Vabbè, quello che maleducazione che vuol dire la maleducazione? Non ho capito. Maleducazione, perché quello gli avranno fatto pesare. Cioè, magari quello si faccia pure una canna ogni tanto, però gli avranno fatta pesare, nel senso, uno che arriva a buttarsi dalla finestra perché se fai le canne. Cioè, gliel'hanno fatta passare male in casa. Cioè, tu dici i genitori non accettavano questa cosa e lo riproveravano. Magari, io mo non ne so niente, anzi, forse da questa cosa ne so pure no, poco. No, pare però che ci sia stato un litigio furibondo tra te vedo che te fai una canna, te corco, te botte, te pisto come una ciampugna, eccetera, eccetera. E questo qua, con i finanzieri, non è che so, cioè, carabinieri, la finanza dentro casa, te mette pure una certa agitazione, io per primo. Beh, pure i carabinieri ti mettono agitazione, che fai? Carabinieri, però la finanza, dico che sono latitante, con 10 grammi di fumo, cioè, capito? Sì, ho capito, ma Yuri, per carità, pensa vengano a casa tua, che fanno? Gli ridi in faccia, che fai? È l'ultima volta che mi sono entrato in casa, gli ho consegnato. E via. Ma perché pure c'hai pure precedenti poi, da questo punto di vista? Ma guarda, mi sono solo entrato in casa a cercare altre cose e io ho detto guarda, io ho due canne, boom, gli ho date. E perché sono entrati? Scusa, però a casa mia non entrano i carabinieri, scusami se torno nemmeno a casa di Parenzo. C'era un'indagine estesa e sono passati anche da me, perché non è normale. Non è che c'è un'indagine estesa e passano a casa mia. Non è assolutamente normale, soltanto che è morto un ragazzo che conoscevo e sono entrati così perché fanno ambiente dei canaroli, ambiente dei canaroli, dice. No, altre cose. Però io ne conosco, guarda, sono entrati a casa tua. Che hanno fatto? Grande spaccato di vita. Sono entrati a casa tua. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto l'indagine, hanno cercato, hanno smucinato. La prima cosa ho detto: guarda, ragazzi, io ho due canne. Gli hai dato le canne? E io ho dato quello. E perché gli hai date? Ma perché. Se possono avere due canne o no? Sì. Che io sappia, no. Ma come no? Lì t'hanno fatto il verbale. Uso personale, uso personale. Uso personale, ma poi non ti succede niente. Voglio dire, già dopo i 5 grammi, è un probabile spaccio. Dopo i 10 ma io non ho capito su. Tu che cos'è? Ti hanno fatto un provvedimento amministrativo? Ti hanno iscritto da qualche parte? Che hanno fatto? No, non è successo niente. E allora perché gliele date ste canne? Perché non te le sei fumate? Ma perché mi sembra giusto, cioè, ah, ti sembra giusto? Magari così, se le sono fumate quelli le canne. No. Ragazzi loro, anzi meglio così, sono contento. Ma guarda che c'è un sacco di poliziotti di forze dell'ordine fumano le canne, inutile. Giovanardi smettesse la mia. Ma stai scherzando? Guarda, io conosco pieno di poliziotti che lo fanno. Che stanno, ma i è normale. Che fanno le canne, sciocca che poi la zanzara, vedo già su Libero. Sciocca la zanzara, Cruciani infama la polizia. Ma non è vero. Tutti drogati. Feltri fa il titolo. Cruciani no. Due punti. Sciocca la zanzara. In polizia si fumano le canne. Tutti ma non drogati. È vero. Non è vero. Sì, così ma non è vero. Detto. Ma io meglio Cannaroli carcoli. Io l'altra sera la principale gli dico guarda che se io mi fumo una canna non metto sotto nessuno quando via la macchina. Beh, insomma, cioè, quello non è detto, non no, è detto. No, cioè tu magari ti distrai, va a far botto per conto tuo, ma a differenza di un alcolizzato io non metto sotto nessuno. Cioè non tu dici anche se te fai 3-4 canne sei lucido per sei e puoi sono guidare. Lucido a livello di non ammazzare nessuno, ma ti fa un botto per conto mio. Cioè, ma questo io lo credo assolutamente. Poi bisogna vedere anche la capacità di ognuno, la capacità di reazione, non tutti reagiscono. Magari come te, che restano lucide e riescono a guidare comunque. Qualcuno magari se fa due canne è un po' rincoglionito e va a sbatte pure con le canne. Mica è detto, Yuri. Io non le difendo al 100% perché sono sempre dell'idea che la canna è il primo veicolo per qualcosa di più pesante. Quando ma è che no, non ma t'apporta. Questa è una stronzata, dai. Su, no, è vero. Ma che dalle canne all'eroina, dalle canne alla coca, dalle canne all'eroina è grave. Ma quello però sì. Dalla canna alla birra, dalla birra cocaina, ti piace a mischiare. Ma io conosco un sacco di gente che ha iniziato direttamente a farsi la cocaina senza passare dalle canne. Conosco No, io dico del discorso canne, è un buon guarda che lo dice Giovanardi che si passa dalla. Lo so, ma questa è una cosa su cui c'ha ragione. Ed è da dirlo. Cioè, per dite pure mio figlio. Gli dico: amico mio, fatti le canne figli, quanto te pare. Però sappi che dopo se non t'abbasta. Se non t'abbasta. Ma quanto c'hai? Che c'hai il figlio pure? No, però. Allora perché hai detto a mio figlio? No, così in generale? No, se ci avessi un figlio, se quanti anni questa hai? Sarebbe scusa, un'educazione. Yuri, quanti anni? Dove lavori? Al pit stop a Roma. Al pit stop a Roma. Beh, amico mio. E il tuo titolare sa che te fai le canne? Sì, è stata la prima cosa che gli ho detto. E non gliene frega un cazzo? No, gliene frega, infatti è una cosa da prendere che pinze. Mi ha detto qua in giro non te voglio vedere né che giri che canne, che te la fa, che vieni con gli occhi rossi, fai come te pare. Ma però infatti me faccio quando è che torno a casa, cioè non vabbè, Yuri. Lavoro, mo tengo stretto. Ciao bello. Ciao. Ragazzi, belli per voi. Grazie. Ciao. A dopo ragazzi, qui la zanzara. Ciao. Lasciati uno parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La zanzara. Semplicissimo, se volete parlare dei filetti di merda di Sgarbi, o volete indicarci qual è il miglior combustibile per i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlarci delle emorroidi dei froci, o volete chiamare negro qualche profugo, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al top. Ah belli. E mi faccio i canne, sì. Andiamo avanti. Ogni giorno riceviamo notizie di preti che vanno a mignotte oppure si inchiappettano bambini, caro Parenzo. Bisogna anche verificare ogni storia, naturalmente. Beh. Per esempio quella del prete pizzicato ieri dalla 7 durante il programma La Gabbia il quale frequenterebbe, io dico frequenterebbe perché ancora non ci posso credere all'idea, cioè non posso credere all'idea di un signore in tonaca, di un signore vestito da prete, ufficialmente vestito da prete, è come diciamo se un carabiniere andasse a Mignotte, diciamo, no? Andasse in un night club e si appartasse con delle signorine. Forse se... è meno grave quello del carabiniere. No, lasciami, però... non parlo di gravità, sto parlando diciamo dal punto di vista simbolico, cioè tu carabiniere che vai, se vai in un posto, in un night club per andare con una donna o per portarti una poi, non è che ci vai in divisa, no? Sì, certo. Io dico, ho dei dubbi sul fatto che un prete, che motivo ha per andare in un night club con la divisa da prete? Sì, non ne ho idea. Però vogliamo crederci che un prete intervistato dalla gabbia si è andato in un night club nella Bassa Padana, hanno detto, vicino a Piacenza, in due night club a fare le cose sporche, cioè dire ad appartarsi con delle signorine. Poi c'è anche da verificare questo, un club lo abbiamo anche identificato. Comunque in ogni caso questo dice di spendere anche 500 euro per 5 ragazze, i soldi delle offerte, una vergogna naturalmente. Dice anche di avere l'abbonamento addirittura in un locale perché costa poco. Poi dice dovrei andarmi a confessare, ma sì, poi se voglio vado a confessarmi. Poi dice, beh, io ho l'arma del ricatto perché qui ci sono un sacco di persone sposate, dunque se qualcuno mi accusa io posso accusare gli altri. Un prete ricattatore. Dice di aver preso 400 euro dalle offerte. Caspita. Quanti soldi hai fatto? 4 offerte, tu, 3, 400 euro. Contanti. Sì. Presentarsi. 500 euro per 5 ragazze. 5 ne ho preso dal night, per 500 euro, un'ora e mezza. Ma io ho molti dubbi sull'esistenza di preti che in tonaca vanno in un night club a Mignotte, ragazzi. Effettivamente è strano, però. È molto strano, dai. Però vogliamo credere che sia avvenuto davvero così. Oh! E nome della chiesa con due cose così, a non c'è! Arugge, enomo di chiesa con due cose così. Mario Brega, signor Mario Brega. Brega, certo. Verdone. Allora, fammi dire una cosa, però, dimmi. Montando una gara. Poi chiudiamo, tanto sono 19.30. Chiudiamo. Sì, no, ma è meglio, dai. Una grandissima polemica su queste palme che sono state. Ah, sì, come no, certo, assolutamente. Fammi dire che è esteticamente osceno? Io non me ne frega niente della questione degli immigrati. Ecco, bravo. Invece, vabbè, osceno. Le palme e i bananeti. Ma il tuo è un giudizio estetico, va benissimo, osceno. Ma invece la cosa assurda è la polemica politica che c'è su questa roba delle palme. Cioè il signor, credo che si chiami Matteo Salvini, che sì, è il Matteo leader Salvini, della Lega Nord per l'indipendenza della FU Padania. Della FU indipendenza della Padania. Dice, prende la palla al balzo, cioè intanto le palme le ha messe Starbucks, non l'hanno messe gli imam. Beh no, aspetta. Calmati, le palme, l'installazione delle palme, la manutenzione, quel giardinetto che piace o non piace, ma è stato finanziato da Starbucks. Ma questo è un altro discorso però. Starbucks, ma è il comune che dà l'autorizzazione, però, amico mio. Signore mio. Non sono gli imam, non sono gli islamici che hanno messo le palme. Bene. Il comune di Milano, però. Il comune di Milano l'ha deciso. Il comune di Milano. Ok, benissimo. Il mullah Sala. Ma non è arabo Sala. È di Milano, è milanissimo, cattolicissimo. Ha dato l'autorizzazione a Starbucks di mettere quelle palme. Bene, cosa fa la Lega? Sì. Cosa fa la Lega Nord? Dice, cosa fanno i consiglieri di opposizione a Milano? Sventano delle banane in consiglio comunale e Salvini dice quando vedremo anche i cammelli dovremo ringraziare perché stanno violentando la nostra identità. Ora ragazzi miei, ma si può trasformare in polemica islamica politica con riferimenti ai cammelli, ai territori, a quei territori lì, perché Starbucks, cioè gli americani, hanno messo quella roba con le palme? Ma ti sembra decoroso, no, normale, la questione, civile? La questione degli islam non c'entra nulla, appunto, però devo, appunto. No, non c'entra, in questo perché caso non c'entra nulla, evocare l'islam sulle vicende delle palme messe lì da una straordinaria multinazionale americana. Adesso straordinario lo dici tu, a me non me ne frega un cazzo della Starbucks, a te interessa la Starbucks, a me non me ne può fregare meno. Io il caffè bevo solo il caffè, ma non me ne può fregare meno, io non sopporto Starbucks, non sono mai entrato in vita mia. Comunque neanche io, ma non sopporto, ma non mi interessa, no, non sopporto, no. Corruciani all'attacco di Starbucks, non devono venire in Italia, ma che sei, noi con Salvini? Ma che sei ormai? Sovranità, Cruciani candidato con sovranità, poi sovranità sovranità di che cosa? Di che cosa? Ma ti sovranità? Stai inventando una cosa che non esiste. Cruciani all'assalto di Starbucks. No. Io spero che ti facciano un culo così. Ma quelli perché? Starbucks, ho detto, spero che ti facciano un culo così. Ti querello per diffamazione. Ma perché sei andato all'attacco allora, di Starbucks. Allora, devo dirti la verità. Questa cosa che hanno ideato per il Duomo i signori di Starbucks è oscena. Vabbè, è oscena. Ma è un'oscenità estetica. Ma non c'entra no, l'Islam. Ma non c'entra nulla, infatti. Nulla, l'ho detto all'inizio. Però... Palme, senti cosa ha scritto Salvini. Palme e banani in piazza Duomo. Follia. Mancano sabbia e i cammelli. E i clandestini si sentiranno a casa. Hashtag motosega. Hashtag motosega. Ma io vado via adesso. Mi alzo e vado via dallo studio. No, vado via. Mi sono arrabbiato. Ciao, ma vado che via. C'entra? Ma scusa per andare cosa via. C'entra? Ma basta. Ma avete rotto i coglioni. Ma io non sono vado d'accordo. Vado via. No, tu mi hai stufato anche tu. Vado via. Ciao. Ma scusa. È pazzo. Ragazzi, la verità è una sola, che chiunque sia passato da lì, adesso noi trasmettiamo in tutta Italia, non è che siamo Milano centrici, io sono passato stamattina a vedere la situazione ed è una roba oscena, oscena, oscena, oscena. Che ha fatto? Se n'è andato quel coglione? Davide? Davide? Sì. Sì. Allora ragazzi, le palme sono oscene. Le palme a Piazza Duomo sono oscene. A me non me ne frega niente dell'Islam, gli immigrati, eccetera, eccetera. Anche se, devo dirti la verità, alcuni immigrati intervistati con i soliti vox pop, Parenzo, ecco, va, sentiamo, sei tornato. Sentiamo ecco. La cosa razzista che dici. No, sentiamo. Anche se la ho cosa detto, razzista, gli immigrati di. Dicono, ci sentiamo. Immigrati, allora, perché non andare su Palma a Milano? No, no, io non ho Islam, detto. Islam, fai Islam. Tutto da solo. Fai. Sei proprio vergognoso fai ormai. Fai tutto da solo. Immigrato, già che sei là, che passa davanti a Duomo, sale su Palma. Ma io, ma stai, ma stai facendo tutto da solo. Ma questa qua che radio hai di sovranità ormai? Ma che cosa sei tu? Candidato di che cosa? Del polo nero italiano, Lega, Meloni, ma cosa sei tu? Senti, ormai? Milano, sovranità? Milano. Ma quale sovranità? Ma vaffanculo, sovranità! Ma quale? Se c'è l'Europa, c'è la sovranità! Ritorno alla lira, confini, filo spinato, palme! Avete sfregiato il Duomo, sfregiato il Duomo! Hanno messo quattro palme, ma l'ha messa una multinazionale americana, dove ora governa un signore che si chiama Trump! Basta! Così bella. Mi sentite un po' più a casa? Sì, un po'. C'è. Bella atmosfera così. Indovina di chi era questo box pop. Fammi indovinare, dalla vostra parte. Beh, lo so, sì, una cosa. Dalla vostra parte o no? Canale 5, canale. No, ma ragazzi, miei, però, ma non è possibile. Ma senti ancora. Ma posso dire, ma non è possibile. Interpellati gli immigrati sulle palme. Ecco. Posso dire però una cosa, questa va detto. Le palme sono orrende. Vi sentite a casa? Ma si può fare una domanda? Ma vi sentite a casa cosa? Senti. Io vorrei sapere a chi le dice i taxisti che si devono spostare per parcheggiare i cammelli. I tassisti sui cammelli. Finiremo anche noi come l'Africa. Questo è il cuore della sera, mi dicono però. E fra un po' diventiamo anche noi Africa. Ah, ragazzi. Chi è? Ah, quello che. Quello che si fa le canne là. Giorgio, provincia di Belluno, vai. Allora, intanto ciao Parenzo e ciao Cruciani. Dimmi. A parte l'emozione, io sono un genitore probabilmente forse un po' anomalo, ho 50 anni e ho un figlio che fa 17 anni domenica e una figlia di 19. Sì. Dico solo che vorrei arrivare a quelle persone che hanno figli come me, non tanto la signora perché poverina la cosa è andata come è andata, ma voglio dire, ma aprite gli occhi. Ci vuole poco, ci vuole. Basta utilizzare la tecnica della conoscenza, no? Voglio dire, è un'età delicata, lo sappiamo tutti, no? E dunque? Non ti ascoltano. E dunque? No? No, allora, ci siamo passati tutti a quell'età. Cioè, andiamo, tuo figlio si fa le canne o no? I tuoi figli si fanno le canne allora, o no? Allora, arrivo proprio al dunque. Mio figlio si fa le canne e io posso dire adesso, lui ha 17 anni. Non chiami la Guardia di Finanza. Non chiami la Finanza. Non chiamo la Guardia di Finanza, è in impazzia. Bisogna mettersi là e parlare insieme a loro. Piuttosto gli dico, oh, fuma roba buona, piuttosto che andare in cerca di beh, casini. Amico mio, penso che tu te facevi le canne pure te. Se ancora... per forza me le facevo. E ancora te le fai, forse a 50 anni? Sì, caro. Ogni tanto insieme a tuo figlio, insieme a tuo figlio te le fai, di la verità, insieme a tuo no, figlio. Questo ancora no. Io lì ancora, aspetto che sia ancora maggiorenne. Mi dispiace, ma comunque Giorgio, la realtà è questa. Giorgio sta dicendo, se vedo mio figlio che si faceva le gare, però non sappiamo quali altri problemi avesse questo che si è ammazzato, in realtà. Comunque, sì, diamo per scontato figlia quello che abbiamo letto. Stando a quello che abbiamo letto, Giorgio col figlio che si fa le canne, forse anche la figlia di 19 che si fa le canne, la guardia di finanza non la chiama. Punto. Non la chiamo. Poi uno la può pure chiamare, per carità. Fatto sta che ha chiamato la guardia di finanza, quelli sono andati a casa, quello si è buttato alla finestra. Questi sono i fatti, cioè non è che sono altri fatti. Sai cosa ti dico? Allora, no, i fatti non sono i fatti. Vabbè, d'accordo, avete ragione voi. Allora, d'accordo. No, ti dico una cosa, che bisognerebbe lasciare da parte l'orgoglio, no? E svincolarsi dalle chiacchiere della gente, perché io penso una cosa, io in questo momento c'ho ancora mio figlio. Io non sto dicendo che la cosa bene, lui mi vuole bene, ok? Meglio che se fa le canne. Meglio che se fa le canne che non averlo più, dici te. Però ragazzi, io non voglio dire che la Guardia di Finanza ha provocato la morte facendo la perquisizione a casa. No. Ho detto che qualcuno l'ha chiamata. Ormai l'abbiamo battuta così, sciocca la zanzara. Ma non dire cazzate. Cruciani contro la Guardia di Finanza. Non ho mai detto una cosa del genere. È così, mai, è agli atti ormai. È ormai agli atti, è in stampa, nel rullo. Mio nonno. E adesso la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Dai ragazzi, ma ancora stiamo qua a dire che la cannabis è peggio dell'alcol o delle sigarette? Io sono una ragazza di 22 anni, laureata con 106 in economia e finanza all'Università di Bologna, che questo poi non significa un cazzo perché ci sono tanti rincoglioniti laureati. Ho già un contratto di apprendistato di 3 anni con Unicredit SPA e mi faccio le canne tutti i giorni, ma d'altronde nel 2017 c'è ancora chi crede in Gesù e quindi ci sta che ci sia gente che creda ancora che le canne bruciano i neuroni. Da 20 anni fumo un grammo di hashish al giorno, marijuana più o meno, e mi carico un monte bucaioli tutti i giorni. Dopo il lavoro io torno a casa, mi prendo il mio bel cimotto di ganja, mi stampo il mio bel cannone, me lo fumo ascoltando La Zanzara, mi faccio 4 cianchi e onestamente me la sento sucata. Siamo al top. Lorenzo, ti segnalo anche, hai sentito il tiro della canna, che poi è strano, sì, perché certo. Io e te, tra tutti questi canaioli che ci mandano i messaggi, siamo quelli, tu sì, ogni tanto magari te la fai una volta guarda, al mese. No, ma una volta al mese, sono tanti, praticamente un anno e mezzo, barra 2 anni. Per cui siete in presenza di due persone che le canne non se le fanno, io non me la sono mai fatta una in vita io mia. Io dico purtroppo, è un anno e mezzo che non... No, io non dico purtroppo perché non me ne può fregare meno. No, ogni tanto me frega, ma niente. Comunque, Starbucks, quelli che facevano la morale a Trump, quelli che adesso impongono le palme in Piazza Duomo, impongono le palme in Piazza Duomo. Contro le multinazionali, no, ma che c'entra essere contro le multinazionali? Gli ha dato la possibilità. Intanto hanno scusa, sai che ad Atene, che stanno con le pezze al culo, hanno rifiutato Gucci al Partenone? Ad Atene, pur stando con le pezze al culo, hanno rifiutato, credo, Gucci, una cosa di questo tipo, al Partenone. Noi potremmo pure dire di no ai signori di Starbucks che vogliono le palme davanti a Piazza Duomo, perché oggettivamente è una follia estetica. Le palme con il Duomo di Milano non c'entrano nulla. Ma quanto può essere sarà un'installazione 3, verde, è Milano una cosa. Osa, ha detto Sala, Milano osa. Ma che osi? Che osare mettere le palme a Piazza Duomo con i bananetti? Sì, ma dai, non pagate dal comune, pagate da una Starbucks. Pure che il comune pagasse le palme a Piazza Duomo, andavo lì con i forconi, altro che popolo sovranista. Con i forconi, ma cosa sei? Ma con i forconi? Per delle palme in Piazza Duomo? Ma no, ma è per dire, dai, su. Ma ragazzi, ma siete impazziti ma come, tutti qua dentro. È brutto, ci sono delle cose che sono brutte. È brutto le palme. Comunque Starbucks sono la stessa catena che in Arabia Saudita non si fa problemi per voler stare in Arabia Saudita e beccarsi i soldi in Arabia Saudita a discriminare le donne. L'abbiamo già detto. Lo abbiamo già detto. Starbucks. Mette nessuno. I pannelli di genere, l'ingresso separato per l'uomo e per le donne. Ma vabbè, quelli vergogna, sono, ma vergogna. Quelli stanno lì a fare soldi, appunto, non a fare opere di bene. E allora dopodiché non facessero la morale su Trump. Non fanno nessuna morale. Non rompessero morale. I coglioni sono a Trump. Gli stessi però che danno lavoro, ad esempio, come carità, hanno fatto in polemica con Donald Trump, agli immigrati che sono negli Stati Uniti. Intanto, bravissimi, ottimi. Hanno messo delle palme vergogna. Lì pagate da loro. Dai. Esatto, signor Parenzo. Beh, signora, la vecchia rincoglionita che dice no, esatto, signor Parenzo. Lucidissima, dai, lucidissima. Comunque, ragazzi, il peggio di Radio Padania, dove torna un personaggio di nostra conoscenza, caro Parenzo. Via con la sigla. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e vive. Lennox Ferrone. Servi di Roma fuori. Mi dispiace molto che comunque Radio Padania non sia presente nelle top hit delle radio, ma pensavo che fosse chiuso davvero, che avevano fatto chiudere. Che... Mi vuoi far piangere del tutto, Ferrone, veramente. Non permettere al tiranno di accecarti. Ho fatto un bel giro in Italia, sono stata dal Bettone a trovare il grande sindaco Gio Formaggio, cui ti saluto. Gio Formaggio, certo. Sì, apprezza molto Radio Padania, come tutti gli ascoltatori di Lennox Ferrone apprezzano Radio Padania. E Nabucco salirà alto nel cielo. Quanti soldi pubblici finiranno? Tu verrai a leccarmi i piedi, Varenne. L'ho già sentita questa. Sì, era Cruciani. Citazione di Cruciani. Ah, era una citazione di Cruciani, davvero? No, dei tuoi amici Cruciani e Parenzo. No, per cortesia, mi stai offendendo. Non ti chiamo più. Io purtroppo dimentico il nome di quel viscido individuo. Guarda avanti. E poi il clou, Ferrone, neofascista italiano che si dice orgoglioso di essere fascista, si vuole iscrivere al partito della Cannizzaro, cioè vuole praticamente la tessera numero due del partito della Cannizzaro. Ti annuncio che gli è stato notificato, credo a giorni, una mia querela. Ma vabbè, te lo esagerato, alla Cannizzaro, cioè alla Cannizzaro. No, alla Cannizzaro, a Ferrone. No, quale Cannizzaro? Lennox Ferrone. Non dai. So, che mi ricordo così. Nella tempesta. Sarò a Genova con la dottoressa Anna Maria Cannizzaro per iscrivermi al partito MSI Destra Nazionale, quindi sarò lì che sarà uno degli sponsor ufficiali del tour italiano di Lennox Ferrone. Ma quale tour italiano, di che cosa? Il tour italiano nell'ambulanza lo devi fare, Ferrone, il tour italiano in ambulanza fai. Lascio, parlare, il che giro un po' delle case psichiatriche devi tra fare. Tra un po' se lo bevono quello, non ti preoccupare. Dai, se lo bevono. Su ragazzi. Senza dubbi. Senti che dice della Merkel, dici? Ma chi questo? No, sempre signor Ferrone. Ma Ferrone, perché parla della Merkel? Ma non è possibile far parlare tutti su tutto. Servi di Roma fuori. E la cancelliera tedesca che ha deciso di non premiare i nostri poliziotti. La cancelliera tedesca va cancellata completamente, insomma, va in scatolata, va messa da una parte autocompattatore e dall'altra parte escono mangime per gli animali, per i maiali. Padania bella. Va messa in un compattatore da dove esce mangime per i maiali. Poi c'è il signor Barin che dice: bisogna entrare dove ci sono i negretti e dire fuori dai coglioni. Signor Barin, tu vorresti far chiudere Radio Padania per razzismo, diciamo la verità, Parenzo. Beh, assolutamente. Questa sì. Il tuo obiettivo è questo. Non è il mio, dovrebbe essere normale, penso, ma non perché lo chiedo io, perché lo dice la legge. Ma comunque, ragazzi, posso chiederti cosa si può dire di più oltre quello che stai facendo sentire? Poco, devo dire. Di poco. Più, ecco, poco, anche poco. Tu ammetterai. No, però io non chiuderei mai nessuno. No, d'accordo, ma io oltre sono... a questo. No, oltre io a questo... sono per l'esistenza del Ku Klux Klan, bene, come sai. D'accordo. Che chiedo, problema c'è? Rebus sic. Questi sono dei dilettanti. Al confronto sono dei dilettanti. Stando così. Mettessero direttamente il cappuccio bianco. No, dovrebbero avere il coraggio di andare in giro, Varin, anche se è grosso, lo so, e dunque ci vuole una tonaca piuttosto sai larga. Sai dove dovrebbe mettere il cappuccio bianco? Dove? Fammi parlare male. Dove? Beh, nella sua vera testa, quella dove non batte il sole. Ma sarebbe uno spettacolo deplorevole. Però voglio dirti, di più, cos'è che si può ancora sentire? Io ti giuro, ormai non riesco neanche più a scandalizzarmi, ma ti assicuro. Cioè ormai li ascolto come fosse dell'acqua sì, fresca. Sì, però ragazzi, è il Ku Klux Klan italiano e come tale deve essere rispettato. Non hanno il coraggio di mettersi la tonica bianca. Ma sì, con le torce, dovrebbero andare così invece di fare la radio, dovrebbero stare con le torce a fare le manifestazioni Ku Klux Klan, sì, avere anche la radio, per carità, va benissimo, però avere il coraggio di dire sì, noi siamo il Ku Klux Klan, per uno che dice negretti, negri, compattatore, eccetera, converrai, no, ma è il anche Ku Klux Klan, che più di questo di razzismo, no, cioè, ma è il Ku Klux Klan, ma secondo te è razzismo o no questo? Ma sì, certamente. Dai, ma per me ha diritto di esistere, questa è la ma differenza, ma lascia stare, ho capito, però possiamo definirlo sì, razzismo, sì, assolutamente. No, perché sennò non ci vediamo d'accordo su niente. No, no, ma loro dopo di che, per carità, bruciate i negri, tutto quello che volete, d'accordo, continua a dirlo, va bene, d'accordo, va bene. Ormai è assodato che vogliono bruciare i negri. Ma metteteli con la tonaca bianca, con la torcia. Possiamo definirlo razzismo, questo almeno. Meno male. Oh, senza dubbi neri, pensamenti. Tradire è il fare. Ci sono di mezzo tanti negretti e non sempre, a volte sono rom, sinti, camminanti, e ce n'è di tutti i tipi, e bisogna avere coraggio, bisogna avere coraggio, entrare nei posti dove bivaccano da mesi se non da anni e dire basta, fuori dai coglioni. Guardavan. Caro Varin, però prendi la torcia in mano, vestiti di bianco se ci riesci con una tonaca larga e fai quello, come dire, quello che pensi, fallo, mettiti là, fonda il Ku Klux Klan italiano, sei perfetto, tutto pelato. Attento però che a tua moglie e tuo figlio, perché in America la moglie e il figlio hanno fatto fuori il capo del Ku Klux Klan, il signor Frank Ancona. Voglio dirti un'altra cosa, mio cognato mi scrive una cosa, ha due, sono i miei nipoti, ha due ragazzi, uno di 18 anni fatti da poco e un altro. Tuo cognato chi? Il, come si chiama? Il fratello di mia sorella, il marito di mia sorella, come si chiama? Cognato, si chiama cognato, sì. Giustamente dice: io non so se si fanno le cani. Ma ascolta, credo, la zanzara, assolutamente, brava, credo che si faccia, credo che non si facciano le cani i miei nipoti. Ma anche se se le fanno, chi se ne frega, credo che non se le facciano. Ma non è un problema. Perché bisogna chiamare la Guardia di Finanza? Non è il caso di chiamare la Guardia di Finanza, capito? Cioè, non è il caso di chiamare. Era talmente autorevole questo messaggio che abbiamo speso due minuti per leggere il messaggio del cognato di Cruciani. Beh, assolutamente sì. Autorevolissimo. A due ragazzi piccoli, a due ragazzi piccoli, assolutamente autorevolissimo da questo punto di vista. Con tutto rispetto, eh. Libertà, servi di Roma fuori. Senza dubbi neri, Marcello da Modena, vai Marcello, vai. Oh, vai. Sì. Dimmi, dimmi. Senti? Sì, dimmi. Oh, per me, dai. Per me il discorso che ha fatto quella mamma trasuda proprio una inaffettività totale. Beh, adesso non si può dire un'affettività, cioè, ha chiesto anche perdono, perdonami per tutto quello che non abbiamo fatto, eccetera, amico mio. Per me è assurdo, che uno che chiede, per me c'è proprio una, cioè, tu chiedi aiuto e guardi, chiami i finanzieri? Boh, non lo so, ma no, non, io ho tutto, ho grandissimo rispetto per la Guardia di Finanza, altissimo rispetto. Non riesco a dare una dimensione morale. Vabbè, la dimensione morale, che c'entra adesso la dimensione morale, dai? No, ti dico, non riesco ad accettarlo dal punto di vista affettivo. Vabbè, adesso non sei tu a doverlo accettare dal punto di vista affettivo. No, ma non siamo qui a giudicare l'affetto che ha la madre, non lo possiamo giudicare Ho telefonato subito perché ero d'accordo con il tuo discorso iniziale. Bene, grazie. Giorgio da Bari, vai Giorgio. Buonasera. Dimmi. La prima volta che mi faccio sfanculare in diretta su Radio 24. Comunque, per quanto riguarda, ma che ne sai, in anticipo lo dici preventivamente? Sì, metto le mani avanti, come si dice. Per quanto riguarda i preti pedofili eccetera eccetera, per me è assurdo che debbano mantenere la castità. Allora, una proposta abbastanza stupida da fare al Papa: immediatamente la castrazione chimica appena entro nel seminario. Mi rendo conto che è una cazzata. È una super cazzata. Infatti. Ma allora perché chi la dice a fare? Però, chiami consapevole che sia una cazzata, non ho capito. Esattamente. Che vuol dire la castrazione chimica quando entri al seminario? Ma cosa c'entra? Una minchiata. Se tu devi mantenere, visto che la Chiesa. Mantenendo il celibato, castri chimicamente la. Ma sei un cretino. Certo, vabbè, ma sei un cretino. Ma sei un cretino. Vabbè. Archiviato, grazie. Giorgio. Grazie, oggi ragazzi. Ho capito di essere un cretino. Ciao, arrivederci. Ciao. Ragazzi, io chiamerei il mitologico Cesare, tassista romano, uno dei capi della rivolta contro Uber. Pronto? Cesare? Sì? Come andiamo? Sono Cruciani, Radio 24. Sì. Come andiamo? Beh, che battaglia oggi, che grande battaglia oggi in televisione. Ha un po' esagerato lei, signor Tassinaro, oggi o no? No, non credo proprio. Mi sono tenuto. Come ti sei tenuto? Scusa. Come tenuto? Mi sono pure tenuto perché avevo delle cose da dire, ma meglio non dire. Ma perché è meglio non dire? È sempre meglio dire tutto, Cesare, è sempre meglio. No, quello che sapete a volte è meglio tenerlo così. Ma io non ho capito una cosa, ma perché hai sbroccato così davanti alla quella del Partito Democratico? Scusa, spiegami. Ma io non ho sbroccato, io non ce l'ho a livello personale con lei, non ce l'ho perché. Te non sopporti il Partito Democratico. Democratico, diciamo la verità. No, questo. Non sopporto quello che fanno, non è che non sopporto il Partito Democratico, istituzionalmente è partito, però quello che fanno... E che fanno? Come che fanno? Lo sai benissimo quello che fanno. Di modo dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, come cioè, so io. Cioè, per esempio... Ma perché rispondono secondo... Allora, ti dico solo una cosa. Rispondono alle lobby, alle lobby. Ah no, a che? Alle logiche del popolo, il popolo non sa niente di tassisti. Ma che il popolo? Ma il popolo sono tante cose, sono i tassisti, sono il popolo sono anche Uber, allora, il popolo sono anche i consumatori. Ogni volta questo decreto riesce fuori. Ma hai detto che sono abusivi, hai detto... Ma scusa, quando uno ci prende il 33% non può vincere le elezioni, l'ha perse. Perché vabbè, quello che c'entra, poi ci sono... Ma che c'entra? Ma che sta con loro? Ah, oh, bello! Se il 66% sta votato, vuol dire che è contro. Ho capito, ma... Dici, ma, non votato. Ma allora come fa a fare un governo? Ma... Il governo ti fanno col 51%, non col 33%. Ma c'è il Parlamento poi che decide di formare governo, no? E vabbè, tu la pensi diversamente, pensi che bisogna... Ma non è il Parlamento che può decidere il governo di un paese, è no, il popolo, è il popolo è sovrano o no, secondo te? Ma che vuol dire? Non raccontiamo niente, a cosa ci andiamo proprio? Che ci andiamo a fare? Decidono loro, ma, tu... ma che ci andiamo a fare? Ma tu chi voti di solito? Tu ti voti? Io ho votato tutto l'arco costituzionale possibile. Tutti quelli possibili immaginati. No, io ho votato, io nasco a sinistra e piano piano poi alla fine non lo so dove vado a finire. Ma adesso chi voti? 5 Stelle? No, io ma non scelta niente di 5 Stelle, che scelta noi 5 Stelle? Cioè Parenzo, secondo te questo signore Cesare è dal punto di vista, è un ignorante quando dice il popolo deve essere... No, non è ignorante. No, è uno che pensa che appunto il popolo sono tante cose, il popolo sono i consumatori che prendono il taxi, il popolo sono quelli che prendono Uber, il popolo sono quelli che vanno a fare la spesa al supermercato, cioè non è che c'è quelli il popolo. Quelli che prendono Uber non è il popolo, è un abusivo. Perché per fare il tassinaro ci vuole una licenza. Ma io mi incazzo quando lei dice il popolo vuole. Il popolo non è un'entità così monolitica, unica. Dice il popolo non è Cesare, il popolo è il popolo è Cesare. Il popolo però è anche Zagrebelsky. Il popolo è anche Mauro Daman. No, voglio dire, il Zagrebelsky, popolo, lei conosce Zagrebelsky? Il popolo non è soltanto Cesare! Professor Zagrebelsky, Mauro anche il professor Settis, ad esempio, e ad esempio, capito? Ma che sta di? E Dario Di Vico. Ma chi anche... conosce questi? Questa è un'elite! Ma, ancora però. Ne sta a parlare questa gente, no, sta gente scelta niente, a me non me ne frega niente di questo. Io conosco Cesare, solo quello che mi abita di fronte quando vado a fare la spesa dal forfè del popolo. Il popolo è anche... Il popolo è anche Roberto Napoletano, ad esempio, direttore chi di questa Roberto struttura. Napoletano? Oh mamma mia, ma ti rendi conto? No, ma scusi però, Cesare. Il popolo è anche Roberto Napoletano, direttore autorevolissimo di questa nostra piccola struttura, ad esempio. E non è che il popolo è Cesare, il popolo è Roberto Napoletano, che la pensa sicuramente diversamente da lei. E capito? Chi se la frega, ce lo dici? Ma non è che mi ha chiamato, ma che cosa? Questo lei non lo può dire. Lei questo non lo può dire. Sì, ha ragione. Ha ragione. Ma me lo puoi per dirmi che c'è ragione Napoletano? Ma che cavolo la fa? Ma lascia perdere. Napoletano. Ah, tu conosci anche Napoletano, lo sai chi è invece Napoletano? Sì, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. E invece Uber, che ne pensi di Uber? Signore, no, tutto Uber. Il bene possibile questo. Che so, dei criminali, dei delinquenti, chi no, so? No, sono bravi. Vabbè, dai, dimmi la verità, sono andate alla mia risposta, fa la domanda. Ho capito che mi dici che sono bravi, mentre li sono odi. Bravi. E che fai? Sì, io non odio nessuno, secondo me. Beh, non li sopporti però, pensi che sono dei delinquenti che ti vogliono rubare il lavoro, quello sicuro. No, io questo l'ho detto te come al solito. Ti fai le domande e ti dai no, assolutamente, no, ma io ho una domanda, ma io sono la persona più aperta del mondo, guarda, posso far parlare anche due ore. Cioè, no, no, io già mi sono stufato, non hai capito, io non voglio parlare. Già te sei rotto il cazzo, già ti sei... Ma quale trappola? Ma quale trappola? Ma di che? Cioè, ma pensi che vi vogliono rubare il lavoro? Che questo governo vi vuole rubare il lavoro dando spazio a Uber? Questo no, lo puoi dire? No, il governo sta creando posti di lavoro, la rotta di collo. Infatti siamo il popolo più felice del mondo, no? Protesta nessuno. Insieme a noi oggi c'erano i pompieri. Pure. Che volevano domanda ai pompieri. E scusa, la gente che non riesce a prendere il taxi, come giù? Che dici oggi? Non vuole prendere il taxi, andasse a piedi, che problema c'è? Ma come andasse a piedi, amico mio? Ma io non ho capito che vado a me, io non c'ho le risposte, io so solo quello che faccio io. No, ho capito, ma ti sto dicendo, la gente oggi era anche incazzata perché magari non riusciva a prendere il taxi. E allora? Vabbè, ma così è. Quando sono incazzato io? Ho capito, come gli rispondi a questi che non riescono a prendere il taxi e sono incazzati? Ma non riescono a prendere il taxi perché c'è un motivo, scusa, che se incazzano con me? E con chi se la devono prendere? Con chi che stanno al governo. Il problema quando c'è uno sciopero, c'è una prestazione di protesta, sì, è rivolta verso le forze governative. E alle forze governative che voi dovete fare le domande, non a chi protesta. A chi protesta non c'entra niente, che voi c'è manco diritto di protestare. Scusi, l'unica cosa che io contesto nel suo ragionamento che ci ha proposto questa sera nel corso di questa trasmissione, la cosa che io le contesto è questo richiamo continuo al popolo. Perché le dico questo? Perché il professor Zagrebelsky scrisse un libro fondamentale che si chiama Il Crucifige e la Democrazia, nel quale il professor Zagrebelsky appunto sostiene che questa idea del popolo, cioè il popolo, ha scritto suo libro, scusa, il professor Gustavo Zagrebelsky, che fa una cosa, comprate Topolino che è meglio. No, però, ma te lo compri certi libri che lei... sa, ma li leggi solo te questi libri. Scusi, no, ma per lui il popolo siete un branco di ignoranti, siete ascoltate. Ha detto ci sono un sacco di verità sul Topolino. No, scusi. Ha ragione lui, cioè per lui il popolo, la democrazia, per lui il popolo è questa la tesi, cioè di fronte, capito, il vicino di casa, giusto? Ma o sbaglio? Senti, io c'ho da fare, bello, che grazie, devi fare? Dove è? Ma sei sciopero? Beh, c'è una vita mia. E che c'è da fare? Io mica sto solo a casa, ci stanno pure tante due ragazze qua. Voi lì? No, vabbè, no, dipende, parlo, no? Dipende, che vuol dire? Che dipende, due ragazzi che c'è due donne. Faccio vedere che bisogna fare. Ma che c'è due donne, c'hai? Fa accertarsi, no, non lo posso permettere. Ma sei culo, ma non che mi succede, manco uno. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire che vive con due donne contemporaneamente? Ma è immorale? È immorale? Eh sì, con due donne. Beh sì, con due donne. Ma con due donne, scusa, ma com'è possibile? Sei bigamo, sei? So bigamo. No, non ho capito, scusi, però. No, io c'ho da fare, fa come da fare, dai, che devi fare? Ma che cazzo vuol dire? Scusa, c'hai due donne, ma che sei matto? Sei due donne? Io te lo saluto, mo ti attacco, Ciccio, io voglio fare educato, che vuoi fare? Salutiamo degli amici e basta, saluta. Ciao. Ma due donne, sul serio? Come no. Ma beato te, ma con cui ha rapporti contemporaneamente, non credo. O amiche sono? Vabbè, sì, magari pure. Che cioè, non sei fidanzato con due persone in contemporanea? No, gli faccio la magnata. Gli fai da mangiare, che so, magari so. Vabbè, ciao, ciao. Perché molti dicono, ma è un mille proroghe, ma sti cazzi del mille proroghe, tu lo paghi a magari da fare. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, da, pubblicità. La Zanzara. Faccio il tassista a Roma e ovviamente alla radio ascolto solo la Zanzara a tutto volume. Sale una suora e dopo l'ennesimo insulto al Papa sbuffa contrariata e mi chiede: ma chi sono questi gafoni? Non può cambiare radio? Sorella mia, gli faccio, questa è la Zanzara, radio di Confindustria, il Sole 24 Ore, altro che Radio Maria. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, grande inchiesta della Zanzara, caro Parenzo, perché è meglio dormire senza mutande? Andare a letto con la biancheria intima è un'abitudine che può causare danni alla salute, sostengono diversi esperti. Sì, no, il te tessuto, lo spiego io, devi avere delle mutande molto lasche, cioè i boxer per gli uomini, no, ad esempio. Ma che c'entra? Ci sono boxer, che c'entra? Boxer larghi, cioè devi dare la possibilità al... No, però c'è una spiegazione scientifica. Allo scroto, sostanzialmente. Sì, alle palle, sì, ai coglioni, sì. Allo scroto, sì. Di essere libero e non costretto, perché altrimenti durante la notte sudi e ti può creare dei danni. No, ma c'è un'altra ragione. Il tessuto renderebbe l'aria più umida, favorendo così l'insorgenza di batteri. Sì, cioè, secondo gli esperti, è meglio dormire senza mutande. Però io... tu non c'hai, tu convivi con i batteri, per cui anzi, sì, per me, a me non me ne frega nulla. Si combattono tra di loro, i batteri litigano tra di loro e si uccidono tra di loro. Sono talmente diversi e talmente tanti che fanno la guerra di secessione tra il nord e il sud. Si uccidono tra di loro, dunque alla fine spariscono, diciamo. No, è un metodo questo qua. Sì. Attenzione ragazzi, io per esempio non riesco a dormire, devo dire la verità, non riesco a dormire, come si dice in gergo, a palle di fuori. Aspetta, no, che no. Notizia clamorosa che ci hai dato alle 20.01. Mamma non mia, riesco tecnicamente a dormire così. Ho sempre bisogno comunque di qualcosa che mi trattenga, come dire, il cosiddetto pacco. Questo è importante. Perché altrimenti potrei anche svegliarmi per un rumore strano, ma per una posizione strana. Interessa a qualcuno questa cosa? No, ma è interessante capire se la gente dorme con o senza le mutande e che effetti provoca questa roba qui. È molto interessante. Anche i signori di Confindustria dormiranno. Lo sapevo che dormono là. Con le non mutande so, o senza mutande. Ma è una industriali cosa che italiani, francamente non i proprietari di questa baracca, ma come non dormono? Mi interessa, non ti interessa francamente come dormo. Non è una cosa che andiamo che... a Brindisi da Eugenio, vai, avanti. Oh. Eugenio, e dai, sì, mi ero addormentato. Dai, vai, dimmi. E niente, per quanto riguarda il fatto delle canne. Allora diciamo che bisogna prima di tutto legalizzarla, perché i ragazzi stanno fumando la merda. Cioè, in poche parole, l'erba, la marijuana che arriva, la fanno con i diserbanti, viene pompata, li fanno fumare la merda. Poi è sbagliatissimo chiamare la finanza per nulla. Noi non lo possiamo sapere se è nulla o no, non lo possiamo sapere. No, se per è nulla, nulla della serie cerca di risolverlo il problema in famiglia con dei psicologi. Ma non chiamando. Ma non lo possiamo sapere, io non l'avrei chiamata, ma che ne so, quella disperata dice dopo tanti tentativi, attaccamosi pure alla Guardia di Finanza. Che ti devo dire? Non lo so, per me è una follia. Mio figlio, che venerdì scorso mi sento chiamare dalla. Anzi, ho chiamato io un amico mio che mi avevano avvisato. È stato arrestato con un chilo e mezzo di marijuana. No, fermi tutto. Un momento. Allora, tu ci stai raccontando, Eugenio da Brindisi, che tuo figlio venerdì scorso, cioè dire praticamente una settimana fa, lo hanno pizzicato con un chilo e mezzo di fumo, giusto? Sì. Con un chilo e mezzo. Però, amico mio, adesso però, facciamo intenderci. Guarda, sono caduto. Cioè, perché quando mi no, ha però attenzione, chiamato Parenzo, questo... mio poliziotto, pensavo che l'avessero preso con 3-4 grammi di 5 grammi di marijuana. E invece? Si immaginava una cosa del genere. Un chilo e mezzo, quanto c'aveva addosso tuo figlio? No, addosso ce l'aveva poco, ce l'aveva una decina di grammi. Poi? A casa, che lui abita con la madre, e la sei madre separato? Non c'era. Sei separato? Sì. Allora, sì. Eugenio, facciamo... la madre non c'era, purtroppo, e questo qua stava... c'aveva un chilo e mezzo fumo, la marijuana per altri ragazzi l'altro giorno ieri abbiamo ieri come un coglione un ragazzo di 20 anni con cervello di un ragazzo di 13 anni 14 anni perché non capiva ancora, tant'è vero, pensava che lui aveva noccioline, non marijuana. Vabbè. Della serie che sì, questa a te te l'ha raccontato che pensava di avere noccioline. No. Cioè, non è che me l'ha raccontato lui. Quando io ho chiamato il poliziotto, lui sa che cosa aveva detto al poliziotto? No, non chiamiamo mio padre, il poliziotto è amico mio. Ma che cazzo stai dicendo? Gli ha detto. No, non deve sapere niente nessuno. Ma forse tu non hai capito qua, sei stato arrestato. Per cui lui è stato arrestato? Sì, mostra ai domiciliari. E beh certo, un chilo e mezzo, un chilo e mezzo. Dove deve stare, allora scusa. Ragazzi, però adesso ricapitoliamo la situazione. Aspetta, Eugenio, fermo un attimo. Allora, Eugenio, famiglia di Brindisi, padre, genitori separati, ma questo non c'entra assolutamente nulla perché i genitori di quel ragazzo che si è buttato alla finestra stavano insieme, non erano separati. Comunque Eugenio separato dalla madre, il figlio vive con la madre, è stato venerdì scorso pizzicato con un po' di marijuana, hanno fatto la perquisizione, se non mi sbaglio. A casa hanno trovato un chilo e mezzo di fumo, chiamiamolo così, di fumo. Ma evidentemente tuo figlio spaccia, non credo che fosse per uso personale un chilo e mezzo. No, ma in effetti io spaccia o non spaccia detto, tuo figlio? Non ho capito, spaccia o no? No, lui la teneva come deposito. Ma deposito di che? Deposito di che cosa? Deposito da coglione, da coglione. Ma deposito da per coglione. Chi? Per chi deposito? Per se stesso? Per un altro. Quello vabbè, è uguale. Vabbè, amico mio. Giuseppe, o la tiene per deposito, o la tiene per altro, è sempre detenzione e spaccio di dati. No, certo. Ma certo, non c'è dubbio, ma non c'è minimo dubbio. No, Eugenio. Ma hanno capito, tuo figlio, tu non sai quello che fa, spaccia o non spaccia sta droga, amico mio, spaccerà pure, no? Distribuirà, farà, che cazzo ne so, come se la procura, certamente con i soldi gli servono per fumare sta droga, o no? No, ma io ne ho parlato, a lui gli davano 100 euro la settimana, cioè, ma te ti rendi conto, gli ho detto, ma tu sei impazzito. Cioè, chi gli dà 100 euro la settimana, questi qua, per il deposito? Bravo. Informazioni peraltro che tu ci stai dicendo che andrebbero dette all'autorità giudiziaria, tra l'altro. Comunque è stato detto tutto, perché io gli ho detto tu devi dire tutta la verità. Allora dici a noi, facci il verbale. Se no il carcere ti ammazza di botte. Perché pure te con le botte. Ma chi sei? No, ma Crucia, non è che con le botte della serie, è perché l'omertà non serve a un cazzo. Per cui non ho capito, lui alla fine ha svuotato il sacco davanti alla polizia, tutto. Mi segnalano giustamente persone attente che si chiama Retta chi tiene la droga per altri. No, ma così, perché diamo delle informazioni anche importanti alla gente. Qualsiasi cosa, quando te la beccano che ce l'hai addosso, ti danno si chiama Retta e spaccio. Vabbè, comunque in ogni caso l'ha fatto i nomi degli altri, li ha fatti o no? Non capisco perché dire chi se ne frega quando gli do notizie tecniche che mi vengono segnalate. Non me ne frega niente, mica sia Piero Angela qua. Allora parla di immigrati, dai. Ma che immigrati? Sto parlando i negri sulle palme, forza. Ma sto parlando di una cosa serissima con Eugenio. Il problema dei ragazzi è molto serio. Sì, molto serio. Cioè, no, voglio capire una cosa, l'ha fatto la legalizzazione. Vabbè, ma lasciamo perdere questo adesso. Restiamo sul caso di tuo figlio, che è molto interessante. Io vorrei capire una cosa, l'ha fatto i nomi degli altri o no? Non l'ho fatto. Ha detto solo che lui deteneva per altri punti. Mica è un infame. Ma che vuol dire un infame? Ho detto nel gergo loro, io quando dicono mica sono infame. Ma ti dico una cosa, tanto sì, sono andato a colpo sicuro, perché già hanno pizzicato pure l'altro. L'avevano intercettato telefonicamente, lui e quell'altro. Vabbè, comunque stiamo parlando con Eugenio, il padre di un ragazzo che venerdì scorso a Brindisi è stato arrestato ai domiciliari, purtroppo un chilo e mezzo, ed ai domiciliari. Chilo e mezzo non è poco, comunque. Quanto gli daranno, Eugenio? Quanto gli daranno alla fine, secondo te? Mo vedremo. La madre di quel ragazzo, da quello che sai, ha fatto bene a chiamare la finanza o no, secondo te? No. Vabbè, questo padre. Perché, diciamo, tu, se avessi saputo che tuo figlio, adesso diciamo che non lo sapevi, ma avresti chiamato la guardia di finanza o no? No, cioè, se avessi avuto un chilo e mezzo avrei preso e fatto una bella brace. Invece di chiamare la finanza, brucio il fumo, così. Una bella brace, fa profumo, fa quella brace. E ci cucina la carne poi. Però, ecco, chiamare la finanza per 4-5 grammi di e poi adesso, non sappiamo cosa c'è dietro. Ma qui la madre si tratta di un chilo e mezzo, però, nel suo caso. No, è quello, quindi. Non l'avrebbe chiamata lo stesso la finanza. Comunque, il padre. Io non l'avrei chiamata, no. Gliel'avrei bruciata. Ma scusami, ma non ho capito. Sì, non sto criminalizzando nessuno. Non lo so, mi sembra che Eugenio. Lei cosa vota alle elezioni? Gliel'avrei bruciata. Cosa vota lei alle elezioni? Facciamo un po' di polemica, tipo libero. Cosa vota lei alle elezioni? 5 Stelle? Ecco, il padre di uno spacciatore vota 5 Stelle, fa libero. Ma perché? No, io non voto 5 Stelle. Cosa vota lei? Chi vota lei? PD. Eccolo, clamoroso. Alla Zanzara, clamoroso. Il contrario di quello che vota lei. Ecco, cioè, clamoroso alla Zanzara. Aspetta, chi voti? A Meloni, chi voti? No, io ho sempre votato a destra, basta. A destra, poi... a destra. Scandalo alla Zanzara. Il comunista. Allora ti dico una cosa, c'è un amico mio, vecchia data, comunista. Perché quello si faceva le canne da 13 anni, non c'entra niente, 13, 14, 15 anni. C'entra? Non c'entra nulla questo. Comunista. Che cazzo c'entra il partito oggi? Appunto, niente, ma infatti niente, è un gioco. C'entra nulla, è una polemica stupida che abbiamo fatto apposta. Nulla, c'entra nulla. Eugenio, vabbè, mi dispiace per quello che ti è successo. Sì, tuo figlio. Io venerdì mi chiamo un dovevo fare un intervento sul, non mi ricordo neanche su che cosa, mi quinta colonna, cos'era? Dalla costa, no, non collaboratrice, e io gli disse: guarda, lasciami perdere quest'ora. E lei mi disse: ma io sto lavorando. Senti, hanno arrestato mio figlio, che cazzo devo fare? Devo rispondere, cioè, ma gli, con noi? Con noi, con poi noi. L'ho chiamata e mi sono scusato. Allora Eugenio, tu da noi troverai sempre, come dire, un posto accogliendo dove raccontare ragazzi, queste cose. Purtroppo io lo dicevo degli altri, però ecco, mi è successo a me. Ecco. La vita è ma così. Com'è stato figlio? Che dice tuo figlio? È pentito? Si dice che non spaccerà mai più? Perché diciamo la verità, è uno spacciatore tuo figlio, uno spacciatore di marijuana, no, per carità. No, perché è una settimana che lo faceva. È deposito, quello, Una settimana, un chilo e mezzo, la retta, la retta teneva, dai. A te ha detto una settimana, dai su, ma che sei, ma che ne fai? Ma che ne sai tu che era una settimana? Dai su, Eugenio, non credere. Crucia, io ho 55 anni, mi ho fatto canne, tiri e tutto. Eroina? Due anni e mezzo di comunità. Soggia. Cocaina? Come si muove? Cocaina o no? Anche. Cocaina e eroina. Eroina pure. Vabbè. Che devi fare? Stiamo parlando di 30 anni fa. Ho fatto due anni e mezzo con Don Pierino. Gelmini. So come si gestisce quella vita, so come si trova, ti trovi in mezzo, in bocca al lupo, insomma, come se niente, come se niente ti fosse. Sono vabbè, passati 30 Eugenio, anni, t'abbraccio, ciao, ti abbraccio, ciao. Arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao. Al cioccolato dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La zanzara. I'm a real wild one. Nella prima puntata il rabbino ci aveva rivelato. A proposito del valore, del significato del seme, tutto viene dal Talmud ovviamente, che è la Bibbia orale. Il seme è la cosa più importante a livello fisico, sto parlando. Cioè che vuol dire? Cioè la forza dell'uomo si trova nel seme. E allora? Se una persona lo spreca in continuazione, ad esempio i medici lo dicono, che se una persona sta male, ha qualche sintomo di influenza, è indebolito, è molto affaticato, non deve a fare sesso, perché il seme che lui va a sprecare va a perdere molta della sua forza. Cioè bisogna sprecare poco seme, dici tu? Assolutamente. I cinesi, il massimo per un cinese è fare sesso senza sprecare il seme. Ma scusami, come si fa senza sprecare il seme? Lascialo parlare. Cioè tu dici senza venire mai? No, senza farlo uscire. Amica mia, praticamente senza venire, come fai? Adesso entrare nei dettagli. tu riesci a fare sesso senza farlo uscire, tu rabbino? Ma se uno è veramente forte e riesce a dominare. Tu riesci o no? Voglio sì. Ma il cervello Dio ce l'ha messo in alto e sulla testa, perché deve dominare il resto del corpo che sta in basso. Se la gente prende l'uccello e lo mette in alto, allora metti l'uccello al posto della tua testa e metti la testa al posto del tuo uccello. Non mi direi che tu non ti sei mai masturbato, rabbino? No, ma che c'è adesso questo? Mai in vita mia! Ma non è possibile! E mai lo farò! Hai un controllo assoluto sul tuo uccello, allora? No, ma non no? Sulla mia bocca, sul mio uccello, sui miei pensieri, cerco di controllarmi. Ovviamente per sprecare il seme e masturbarsi non c'è bisogno di un controllo, bisogna non essere idioti. Allora, caro Parenzo, seconda puntata del sesso e l'ebraismo con il rabbino, dillo tu come si chiama, che lo dici meglio. Sì. Rav Shlomo Behor, che è una grande cosa, una grande autorità, un rabbino di Milano importante, sì, un importante rabbino di Milano. Come andiamo, rabbino? Benissimo, grazie a Dio, benissimo. Sono pronto per un'altra battaglia con Cruciani. Allora, partiamo con una barzelletta subito, rapida, veloce, rabbino. Ma no, dicevamo anche l'altra volta, giustamente, sì, fare ridere le persone è la cosa più importante sì. Che esiste. Allora, in un piccolo villaggio in Polonia, sì. Sai, i piccoli villaggi sono chiamati shtetl in gergo sì, yiddish. Sì. Vabbè. Allora tutti conoscono vabbè, tutti, vabbè, eccetera, eccetera. Tutti? Viene a mancare, tutti conoscono tutti, si conoscono. Tutti in famiglia, sì, tutti qua. Sì. Viene a mancare una delle donne anziane, una delle più amate, più conosciute della città, del sì, villaggetto. Sì. Tutti i negozi si chiudono, sì, tutti vanno a partecipare al funerale, sì, a salutare per sì, l'ultima volta la signora amata. Sì. Però, mentre stanno andando nella piazza centrale della, del villaggio, sì, uno si accorge che uno dei negozietti è aperto. Sì. Si avvicina e dice, Mazzareo, ma questo è il suo genero. Proprio lui è rimasto aperto, ma com'è possibile? Come abbia mai osato? Allora si avvicina a lui e dice, ma scusami, ma ti rendi conto che proprio tu sei rimasto aperto quando tua suocera è lei che stiamo accompagnando all'ultimo saluto? Sì. Allora Moshe, il capo del negozio, risponde con molta freddezza. Ebreo. Mio padre mi ha sempre insegnato che nella vita viene prima il dovere e poi il piacere. Aspetta, con un certo ritardo l'ho capito, però va bene. Perché non hai riso sei pronto all'inglese? Sai che gli inglesi stanno un po' a un effetto ritardato. Ecco, allora, scandiamo pure la guerra all'Inghilterra. Io direi di andare sulla questione della dispersione del seme. Cioè, la teoria del rabbino è molto chiara: il seme non va disperso. Esatto. Dimmi. Il concetto del seme sì, non è, come abbiamo già detto, ma magari qualcuno non ha capito molto bene. Oh, no. Io non ho parlato molto da un punto di vista religioso, dalla mia veste, diciamo, di rabbino. Sì. Ho parlato da un punto di vista fisico. Sì. Bravo, è risaputo staticamente che i giocatori di calcio, quando arrivano a un evento importantissimo, sì, più si astengono e più sono forti, danno migliori risultati. Sì. Bah. È risaputo che i cantanti d'opera, quando devono venire a cantare, gli uomini ovviamente, le donne esattamente l'opposto, lasciamo perdere. Cioè le donne, questo è importante, infatti te lo volevo chiedere dopo, le donne non ho capito, come la mettiamo col fatto della masturbazione femminile, scusami? Per una donna invece dà un effetto eccessivo, impositivo. Dunque le donne si possono masturbare quanto vogliono? No, no, aver avuto un rapporto sessuale, attenzione, non parliamo mai di, non so cosa intendi, però io non sono così addentrato in questi concetti. No, voglio dire, cioè, i rapporti sessuali per le donne vanno benissimo, per gli uomini no. Sì, per la donna è il massimo e per l'uomo esagerare. Quelli che pensano che farlo ogni giorno, farlo uscire o con un rapporto sessuale o con una masturbazione, questa è una cosa dannosissima. Dannosissima, ragazzi, non ve fate le seghe tutti i giorni, chiaro? Questa è l'indicazione che viene dal signor rabbino. Esatto. Esatto. Ma no, perché se no perdete energie, non riuscite a c'è vero, un'altra cosa che farlo. Scusi, ma scusa, stai dicendo una cosa normale. Scusi, rabbino, c'era un'altra cosa che riguardava in realtà le parti piccole del corpo. Qual era quella cosa lì? Allora, il Talmud dice a proposito di questo. Sentiamo il Talmud. Una cosa molto interessante. Sentiamo. C'è un organo, il più piccolo organo che è nell'uomo. E qual è? Che più gli dai da mangiare e più c'ha fame. Beh, questa è buona, questa è buona. Cioè, quale sarebbe questo organo piccolo, il pisello? Sì, perché più gli dai da mangiare e più c'ha fame. Quelli che pensano ti rendi che conto? Sazziano, perfetto, non è una sazietà quella, è una finta sazietà. Invece non si saziano. No, il problema dov'è? Che la gente continua a guardare intorno tutte queste pornografie, tutte queste schifezze, e poi dopo non riesce a controllarsi. Per questo uno deve essere... È molto chiaro, ragazzi. Nel Talmud c'è scritto: siccome avete l'uccello, la parte più piccola, cioè il pisello, il vostro organo più piccolo, non va saziato ogni giorno, perché se lo sazi ogni giorno poi diventa vorace, cioè diventa una roba incontrollabile, giusto, rabbino? Bravo. Bravo. Vedi che io sono un grande autocontrollo? Un autocontrollo è difficile, molto difficile. Ma scusa, la pornografia nel Talmud è vietata, naturalmente, no? Beh, cioè, sì, ovviamente, porcherie. Beh, porcherie, inutile. Beh, sì, porcherie. Rabbino, lei un film porno l'avrà visto nella vita? Un film porno? No, lei, o no? Mai, no, mai no, visto un film porno? Non l'ha visto. Non ne ho bisogno. Non pensi di essersi perso qualcosa nella vita, non avendo visto mai Rocco Siffredi? No. No. No. Assolutamente no. No, vabbè, per carità. Mi pare che stia benissimo. C'ha 11 figli, si diverte, in perfetta salute, mi pare meraviglioso. Scusi, no? Rabbino, i preliminari sono ammessi? Certo. Sono obbligatori. Questa è buona. Se uno pensa che la moglie è uno strumento di sfogo, di appagamento personale dei suoi bisogni sessuali, allora va lì e fa senza niente, così proprio come un animale. Invece un minimo bisogna parlare, bisogna stare insieme, questo è fondamentale. Vabbè, ma questo va bene, ma questo è ebraico. Ma questo è bello che sia previsto. La masturbazione femminile, che posizione ha il Talmud, le leggi ebraiche sulla masturbazione femminile? Perché non c'è dispersione nella masturbazione femminile, scusi. Non è che sia la cosa più luminosa al mondo, più eclatante. Vabbè. Diciamo che non ha un, proprio una controindicazione di etica ebraica di, appunto, dal punto di vista. Questo, almeno questo, amico mio. Ma come almeno? Almeno questo. Ma, che no, ne così, tutto ma capito, vuoi convertirti all'ebraismo? Non no, ho capito. Okay. E perché questa attenzione a questi dettagli? Non ma capisco. È importante. Senta, per esempio, il sesso con i minorenni nel Talmud è previsto? Ma no, ma che, ma perché? Per ne so? Per l'amor del cielo. Non lo so, ma sei qui matto, sei. Ma non lo so. Ma che sei pazzo. Non lo so, ragazzi, non lo conosco, sto chiedendo al rabbino, scusami, sarà. E il sesso anale? Ma no, ma che ti è come perdere il seme, la stessa cosa. È proibito. Il sesso anale è la stessa cosa, perché Dio ha creato l'uomo, sì, per procreare, gli ha dato il seme, certo, per poter procreare. Uno può avere anche un rapporto con una donna che è in menopausa, che non sta procreando. Non è che ogni rapporto deve procreare per forza. Questo è importante. Ma il seme, sì, deve uscire, sì, dove Dio ha previsto, nell'utero della donna. Questo rapporto è etico, giusto. Giusto, e dunque non nell'ano, diciamo, no? Che è fatto per un altro, per un'altra funzione. Corpo o no? Umano, mi pare. Questo, esatto. Chiudiamo con una barzelletta, vai, Rabbis. Allora, un signore entra in un ristorante elegante in Piazza di Spagna a Roma, sì, e ordina un piatto di spaghetti al tartufo. Sì. Cavaliere, per favore, un piatto di spaghetti. Al tartufo, mi raccomando. Arriva il cameriere col piatto di spaghetti, ma del tartufo non c'è neanche l'ombra. Il cliente tutto stupito dice, ma cameriere, oh, ah bello, ma io ti ho pagato un piatto di spaghetti qua col tartufo, dov'è sto tartufo? Sa com'è, gli dice il cameriere, molte volte si danno dei nomi alle pietanze, ma non è detto che rispecchino la realtà. Mm. Ad esempio, la torta della nonna, quando ne mangia una fetta, mica esce dentro la nonna! Cliente distinto tutto offeso replica al cameriere, ma lo sai che c'hai proprio ragione, l'altro giorno ho mangiato gli gnocchi alla puttanesca e mica ci ho trovato tua sorella dentro al piatto. Signor rabbino, signor è rabbino, un genio. Arrivederci rabbin, grande. Ma come rabbin? Rav. Rav. Ciao, ciao, shalom Rav, grazie, shalom, perdonalo, shalom. Ma perdono, ciao, di caro, che perdono, perché sì, sei un coglione, dai. Ragazzi, andiamo a Reda. Allora, aspetta, dimmi, un attimo, dimmi, perché c'è, avanti, rompi coglioni, devo avanti leggerti dei messaggi. Allora, dimmi, mi scrive, avanti, mi sì scrive, no, ti piacerà, che mi rabbino scrive, rabbino capo di Novara, che è il rabbino capo di Lecco, ma di che non, cosa? Ma vedi, dimmi, che non capisci niente. Dimmi, dimmi. Mi scrive Picardo, che è uno dei leader dei giovani musulmani, oh, d'Italia. Signor Picardo, ma sì, perché Picardo devi ripetere? Io mi mangio signor ai matti quando ripeti i nomi delle persone in scherzo. Ah, Picardo, ecco, Picardo mi scrive, a quando facciamo convertito? Un convertito? No, no, non è convertito per niente, è proprio islamico. Islamico. Mi scrive, a quando facciamo l'imam e il sesso? Rispondo, ottimo, sì, quando me ne mandi uno, sicuro, magari. E lui mi scrive, te lo mando, ok, perfetto, certo. Posso leggere il tuo messaggio in diretta? Lui dice, sì, certo che puoi. Se lo trattate bene come al rabbino, ve lo mando di sicuro. Dico, beh, certo, l'imam, perché? A fare un nuovo grande capitolo dedicato all'imam e il sesso. Tu questo... Vedo che però con questo mio filone che ho, perché sì, l'idea di chi è di fare questo tua, filone tua, qua? Tua, no, tua, di tua, la verità. Tua. Ah, tu, vabbè, che cazzo allora io vuoi? Su questo me ne posso andare, posso chiudere qui, no, la mia partecipazione, no, no, avendo lasciato dopo sei anni, oh, di lavoro, sai, un segno. Lo sai che Mauro da Manto, stai buono, mi scrive Robert Cannuna, sì, no, e che... mi manda un messaggio vocale Cannuna. Vai, fammelo sentire, dai, fammi sentire. Sta pisciando Cannuna. Un ebreo residente in Israele. No, così, ma così Robert Cannuna. No, è a Londra adesso. Ricchissimo sarà sicuramente. No, ma perché? Ma vai a smetterla. Sai chi è? Sai chi è? Annuna. Ecco, questo è il messaggio di Annuna. Sai chi è? Eccolo. Ma perché sta pisciando Annuna? Non lo so, ma cioè Annuna è ebreo, per... ricchissimo, amico, ma di Palenzo. Ma fa la bipì, ci ha mandato un messaggio, sì, con la piscia. No, è dice, normale, uno ricchissimo. Questo è il messaggio, ma come si fa la bipì? Vai. Amico mio, un saluto a tutti gli ascoltatori da Londra e ha mandato questo. Ma quanto cazzo dura sta bipì? Non lo so, infatti, signor Annuna. Senti. La zanzara da Londra, ciao. Beh, amico mio, Annuna, ti amo. Quando è che viene a parlarci di sesso? Qui, altro che rabbino. Zanzara da Londra, ciao. Aspetta. La zanzara da Londra, ciao. Volevo correggere un attimino l'ignoranza di Carlo, che ieri diceva che si masturbava e non eiaculava. Quando fa un atto del genere, intanto non preme la prostata ma l'uretra, Oltretutto, quando ha tutte le sensazioni della venuta, vuol dire che sta eiaculando dentro e va a finire tutto dentro la vescica e poi la espelle con l'urina. Ha fatto la stessa dispersione. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta. Nascivo la nerchie. Allora, caro David, ieri grande battaglia tra noi, soprattutto Parenzo, ma non solo Parenzo, Parenzo e Cruciani contro la signora Cannizzaro. Persona moglie di Gaetano Saia, neofascista italiano, arrestato nei giorni scorsi per un cumulo di pene, tra cui calunnia. Ti prego, ricordami. Arrestato. No, ricordamelo ancora. Un neofascista è finito in galera con una condanna a 3 anni. Tra cui la calunnia, altre cose, 3 anni e 10 mesi. Ti prego, godo come un... Me lo puoi ridire, per cortesia? Sì, io devo dire, voglio difendere sì. Questa cosa di Parenzo. Molti dicono, non puoi essere contento per l'arresto di qualcuno. Perché? Io rivendico il diritto all'odio, figuriamoci se non può. Tu sei sempre felice quando arrestano dei migranti per... No, io non sono felice. Io ho detto... Rivendico galera. Una volta che c'è una galera fatta per un signore condannato per 3 anni e 10 mesi, aveva una milizia, aveva pallottole in casa, che ne so io, si vestiva da nazista, altre cose, ma sì, e la polizia parallela, sì. Gaetano Saia, la moglie si chiama Maria Antonietta Cannizzaro, la quale sostiene, anzi sicuramente è così, di avere il simbolo del movimento sociale, sì. La proprietà del simbolo. Beh, del movimento che sociale, ricchezza, mamma mia. Risentiamo qualche pezzo, ragazzi, formidabile. Regalo più bello non mi poteva essere fatto, guardi. Parenzo, ricordati che la galera non si augura mai a nessuno, hai capito? Perché può essere che anche per te ci possa essere, che non esci più, Parenzo, hai capito? Perché ti sto denunciando, guarda, stai parlando. Parenzo, non può dirmi che il giorno più bello è che stai in galera, va bene? Vabbè, perché ma ognuno è felice di quello. Perché lui, gliel'auguro io alla galera, di non uscire più, proprio di non uscire mai ma più, perché? Perché che ha fatto? Non si augura a nessuno. Ma Parenzo, che ha fatto? Parenzo è un pezzo di merda, va bene? Ma perché? Che ha fatto, signora? Ecco, di ecco, e mi canta Fascista Nera. Ma che canti? Ma cosa canti, cretino? Devo fare una domanda seria. Lei che ne pensa degli omosessuali, signora? Perché suo marito diceva che bisognava mandarli via dall'Italia, per esempio. E a casa loro possono fare quello che vogliono. Che vuol dire a casa loro? Perché non possono uscire strada, scusi. È brutto vedere due uomini che si danno una mano. È brutto. Ma perché è brutto vedere Saia in strada, quello è brutto. Ma perché è brutto? Vedere Saia in strada. Sei croce e ti sei offeso per quello. Eccolo che dico, qua. Scusami, Posso dire? Tu sei ebreo, ma io degli ebrei ho stima. Ah, stima. Tu invece sei, c'è da tremare. Ebreo. Dicevano la stessa cosa del 38, sai com'è andata a finire, però. Però è viva. A però te mi dovevano tremare veramente, no. Perché sei pezzo. No, credo che questa volta ci vedremo in tribunale. Cioè, se l'avvocato è lì, questo se l'avvocato è lì, se... Oh, che meraviglia. Questo non è buono. Avvocati, ci vediamo in tribunale. Ma scusi, ha detto che va cremato, Parenzo, ma non si vergogna, la cremazione, gli ebrei, dai! No, Parenzo, non ho detto gli ebrei, Parenzo dovrebbe essere cremato. Ma il suo avvocato, perché il suo avvocato è sempre, è bravo il suo avvocato, però è sempre lì? È sempre lì il suo avvocato, no? Il mio avvocato, per fare il mio avvocato da domani farò la denuncia proprio perché. Ma chi? Perché cosa? Io credo avverrà il contrario domani. Ciao Cannizzaro, la saluto, Andate a fanculo e domani ci sarà la denuncia di Luigi Frattini. Ma meno male. Ma la denuncia di chi? Ma di che cosa? Non ha capito. La denuncio io, signora. Non ha ancora capito. Signora, non ha ancora capito. Fate schifo. Cosa siete? Fate schifo. Mandate un po' a fanculo. Sì, bravo. Ma meno male. Frattini. E poi ve lo fa vedere. Ma perché cosa? Ma perché cosa? Non ho capito. Perché cosa? Per il culo, per quello che vedete. C'è un nuovo reato. Presa per il culo, reato, presa per il culo. Ah, dai, su. Fate schifo tutte e due, andate un po' a fanculo. Facciamo ancora. Sarà già. Sì. Ma perché domani? Ma facciamo oggi, oggi, c'è ancora tempo, le questure sono aperte. Facciamola oggi, così ci vediamo prima, signora mia. Pronto? Pronto? Sì? Sì, pronto, stazione Carabinieri, buonasera. Salve. Volevo informazioni su quello che è successo ieri sera alla Zanzara. Pronto? Sì, pronto. Scusi, numero privato, quale stazione? Stazione Carabinieri Trevi, stazione Carabinieri Trevi, buonasera. Trevi, a Roma? Sì, Roma, Roma, Roma. Cosa è successo ieri sera alla Zanzara? Che mi hanno insultata... E io mi sono difesa. Sì, ma siccome ci è arrivata una denuncia? Una denuncia? Lo sto facendo anch'io la denuncia. Ci è arrivata una denuncia e volevamo chiedere se poteva venire da noi tra un paio di giorni. Tra un paio di giorni? Quindi questa telefonata è strana perché io conosco i carabinieri, non è usanza. Signora, abbiamo una denuncia, tra un paio di giorni dovrebbe venire qui. Sì, ma lei mi deve dire una cosa, lei, io non vengo da nessuna parte. Cioè, abbiamo ricevuto una denuncia. Mi dia il numero della caserma. Abbiamo ricevuto una denuncia. Abbiamo. Numero privato, ma lei può essere chiunque. Scusi, Potrebbe essere anche uno. Ma sono Cruciani, signora. Su, signora. Non mi riconosce, signora. Perché la chiami signora? Perché signora? Dai. No, io sono una signora. Ma ce l'ha fatta signora? Ma poi alla fine ce l'ha fatta la denuncia o no? Ce l'ha fatta, si è messa paura, certo. I carabinieri, erano i carabinieri, stava lì. Oddio, che è successo? Che è successo? Ora me se bevono pure a me. Perché la chiami signora? Però questa vabbè, signora è una signora, che c'è? È una signora, che c'è? Che fino a prova contraria è una signora. Lady Diana era una signora. Sì, ok. È una signora. C'è lei vicino il suo avvocato? Perché ogni volta che c'è il suo avvocato lei si lascia andare a espressioni... Non ha comunicato al paese cosa è successo a suo marito. Ieri Parenzo certo ha cantato. Io domani faccio una conferenza stampa. Cosa fa domani? Cosa fa domani? Certo. Tutta l'Italia è con lei. Allora ve lo dico subito, la conferenza stampa è a Roma, in via Crescenzo numero 19. Sì, guardi, ci saranno. Allora, aspetta, no, ci saranno le volanti, sicuro, così risparmiamo tempo. Via Crescenzio, sì, so dov'è perfettamente. Via Crescenzio numero 19, lì vicino c'è proprio la caserma della polizia, perché è vicino a Piazza Cavour a Roma. Via anche, Crescenzio 19, perfetto. Da che ora è lì, signora? Così mandiamo la volante addirittura? Mi mandate una volante alle 17. Alle 17, perfetto. Guardi, alle 16.45 qualcuno dei nostri in divisa sarà là. Salga nella macchina con lampeggiante sopra. Uomini coraggiosi, venite anche voi due. Coi coglioni, direi. Direi coi coglioni. Che non ci venite, avete paura? Ma paura di che cosa? Dei buffoni? No, dei buffoni non si può avere paura, signora. Delle buffonate non si può. Perché non si mette in divisa? Perché signora mia, la stagione del circo è chiusa in genere a dicembre. Il circo è a dicembre, a Torbella ma Monaca lo fanno. Lo fate per 365 giorni l'anno. Ma noi siamo anche pagati, lei no, quella è la differenza. Noi siamo pagati, lei no, per fare il circo, signora. Come sta il neofascista in galera? Buttati, come sta il neofascista in galera? Come sta? Come ha passato la prima notte? Se ci sono gli esodati, i poveretti che non trovano lavoro, e voi rubate soldi a questa gente che poveretta non sì. trova soldi. Come sta? Come l'Italia? Come sta? Pagano i buffoni, c'è gente che è disperata sì, e non certo. trova lavoro. Sì. E voi pagate tantissimo per dire cazzate. Sì, certo, tantissimo. Questa è la cosa dell'Italia. Signora Saia o signora Cannizzaro, non so bene come si chiami lei, se Cannizzaro o Saia. Siete ancora congiunti in matrimonio col signor fascista oppure no? Ma no, volevo sapere se c'era un'unione matrimoniale. Ma a me sta simpatico, signor Saia, mi sta simpatico. Ma è vero, perché siete felici, signor Parenzo, no, ha fatto un bellissimo compleanno. Sei felice che stai. Uno dei migliori della mia vita. Uno dei migliori. Sì, sì, sì. Uno dei più bei compleanni della mia vita. Uno dei più bei compleanni della mia vita. Uno dei più bei. Non gioire tanto, perché no. Cresce delle... No, quando un neofascista... Quando un neofascista finisce in galera è mio dovere gioire. Sono guarda, veramente felice. Guarda. È finito sono per uno cumulo di pene. Cumulo, non accumulo. Cumulo di pene, non accumulo. No, cumulo, cumulo di pene. Non accumulo. Accumulo è un'altra cosa. Comunque va bene. Sì, no, va bene. Allora, un cumulo di pene. Sì, di pene, sì. Un cumulo di pene. Sì, ma non dica, non dica parolacce. Pene è una parolaccia, non dica parolacce. Senta, sentite. Allora non dica neanche la parola saia, però, Saia è lì dentro. No, non dica parolacce. Non dica parolacce. Ha detto saia, non dica parolacce, la prego. Non dica parolacce. Ha detto la parola saia, la prego. Delle udienze a carico suo, no, sì, le solite cose di chi va in galera. Vabbè, adesso tutto stanno vedendo. Ma con chi sta? Con gli extracomunitari? Con chi sta in cella? Con gli extra? Non sono con gli italiani, sono nazionalisti. Gli extracomunitari se ne stiano a casa loro. Come no, se ne in cella? Con chi è in cella? Perché se succedeva qualcosa a loro, in galera non c'erano. Ma insomma, è c'erano gli italiani, sì, però. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Ormai siamo in mano a dei personaggi. A chi? Che non, a chi? A questi italiani! Governano. Italiani! Italiani! Ma che fai? Ma cosa fai? Italiani! Ma perché non mi fate parlare? Scusi, signora Cannizzaro, con chi sta in galera? Con chi sta in galera suo marito? Con extracomunitari? Cioè, sta con no, gli ex... No, no, attenta là, attenzione, che peccato, attenzione, perché è un personaggio, non sta con quelli che beh, è un personaggio sicuro, sicuramente. Infatti sì. lo usano come intrattenimento dentro il carcere, certo, sì, sì, lo usano per far ridere i detenuti. Sì, certo, lo usano nel reparto per intrattenerli. Tu finirai con gli extracomunitari che tanto che si diverta durante la doccia suo marito, lì. Che si diverta in doccia suo marito, lì. Quando allora, va a fare le docce si divertirà, vedrà come torna cambiato, vedrà come cambia giudizio dopo. Vedrà, signora, come cambia giudizio sugli omosessuali dopo questa esperienza in carcere. Vedrà quanto, come cambia. Vedrà lei, vedrà lei il popolo. Scusi, ma gli extracomunitari stanno per dire cosa? Ma gli extracomunitari, sì. Cannizzaro, no, io sono a Milano. Parenzi a Roma andrà, magari, non lo so. Scusi, c'è. Roma, signora so, Saia, scusi un attimo. Una volta, signora Cannizzaro, io ma perché all'interno, fuori, gli immigrati e i suoi colleghi giornalisti l'hanno mandato via perché rompeva le scatole. Vabbè. Ricordi, Parenzo? Scusami, francamente. Cannizzaro, è un episodio che non ricordo. Lei come li chiama, neri o negri, Cannizzaro? Oh. Ma come li chiamo io, questo momento non è importante, state chiamando per la questione Saia. Sì, ma non le piacciono, i negretti non le piacciono a lei, i negretti. Dica la verità. Ognuno deve stare nella propria nazione. Ognuno nella propria nazione. Beh, torniamo. Non si fa entrare. Tutti fuori. Ogni giorno un'invasione. Tutti i negri fuori. Tutti i negri fuori. Tutti. Fuori, tutti i negri. Fuori i negri. Fuori i negri. Sono pieni di extracomunitari. Appunto, italiani. Questo deve preoccuparla. Questo dal mese, questo vedrà soldi, quanto mi vedrà. Nella loro nazione, vedrà. Devono entrare. Vedrà come cambia parere su. Bella torna in galera. Aspetta e spera che Re Bibbia si avvicina. Quando saremo vicino a te, rimani in carcere con un coso, un altro tre. Ed altri tre. Non le potevate fare, però vi dico anche un'altra cosa, voi dite tanto, mio marito gli hanno applicato, ciao amica mia, la legge Tulp, ciao ma non ce ne frega un cazzo, ciao la legge Tulp, se non, non ce ne frega nulla della legge, di cosa non ce ne, perché io sono contrario, faccetta nera, torna in galera. Se tu davanti piano guardi il mare, combattenti di terra, di mare, dell'aria, vedrai come in un sogno tante navi, è un tricolore stento per te, accetta nera e va in galera. Aspetta e spera che Re Bibbia si avvicina. Quando saremo vicino a te, starai in cella con uno, due, tre. Boom. Perché non tolgono il tulip? Ma che cazzo? Ma che sta dicendo? Lasciamola parlare, via. Giù, abbassa. Il male assoluto. Perché allora ragazzi, dove andiamo? Giorgio da Lecce, vai Giorgio. Ciao, buonasera. Vai. Allora, io vorrei fare una domanda alla madre sottocata di quel ragazzo che si è suicidato. Sì, che devi dire? Allora, io volevo soltanto avere la registrazione della telefonata alla stanza da parte della madre. Alla, alla fine, ma perché, scusa, ma perché dovresti avere... Quale accorata disperazione ha manifestato tanto da far andare 4-5 di là a casa. Scusami Giorgio, adesso io non capisco un cazzo, perché sei in viaggio, avrai sicuramente tutte le cose, viva voce eccetera, però ti dico subito, non ho viva voce, niente, ma perché dovresti avere la registrazione di questa telefonata? A chiamare perché la surrogata madre, ma non surrogata, la madre, ma che c'entra la madre, la madre adottiva, no, ma sempre surrogata, non è naturale, è surrogata, ma che c'entra, va sempre bene. Madre è adottiva, ma che c'entra, scusa, no, la madre, se fosse stata madre naturale non avrebbe mai chiamato i finanzieri, mai, ma mai. Che ne sai, ma che dici, ma che c'hai la testa, ma c'hai le pigne in testa, mai. C'hai, non avrebbe mai chiamato, ma c'hai le pigne in mai testa, hai le pigne in testa, c'hai, mi sarebbe ammazzata lei. Ma no, pur di farlo smettere da casa, ma non credo, ma non credo proprio. Poi vorrei sapere di quei finanzieri se quando sono tornati a casa ai loro figli hanno raccontato se cazzo hanno fatto tanto da farlo suicidare per la casa. Ma no, perché dai, no? Ma perché dai la colpa alla finanza? La finanza stava facendo la perquisizione, quello si è buttato, non credo che l'hanno messo la al muro. A un ragazzo di 16 anni sono andati, quanti cazzo sono andati? Sono messi in carattere per andare a un ragazzo con 15 anni, quando vanno, devono vestirsi in carattere quando vanno ad altre parti e non lo fanno. Vabbè, Giorgio, t'ho capito, ti sente poco e non posso continuare con te, dai. No, io mi fermo perché è importante, perché... Ma è importante cosa? Hai detto che una madre naturale non l'avrebbe mai fatto, non avrebbe mai chiamato la finanza. Mai fatto. Ma non è vero, ma... Madri naturali vogliono. Ma quando... Non avrebbero mai chiamato, si sarebbero messi con il loro figlio, a tu per tu, a parlare, a disperarsi, ad ammazzarsi anche. No, a chiamare perché lei è stata abituata ad avere il figlio con la burocrazia. E con la burocrazia, che c'entra la burocrazia? Ha pensato di risolvere i suoi problemi con il figlio. Tu dici, ha pensato, siccome ha avuto il figlio con la burocrazia. Ha avuto il figlio tramite le carte, con le carte, con la denuncia, eccetera. Ha pensato di risolvere i suoi problemi. Andrea Ravenna, ciao Giorgio, ciao. Andrea, vai. Andrea. Dimmi. Io me ne vado, prima ragazzi, cosa, vado a Piazza Pulita e vi saluto. Sì, aspetta. Ma avete stufato. Proviamo sta telefonata. Con Salvini a Piazza Pulita. Ingegnere tra lauree, ascolto la Zanzara. Sì. Questo per il buon Parenzo. Allora, bene. Bravo. Poi? Giovanardi. Sì. Come può parlare, sì, e dire di portare come esempio, sì, in bravo, tutte le, esatto, scuole il discorso. Ma io invece questo qua, io penso che ognuno può dire quello che vuole, anche Giovanardi, qual è il problema? Non ho capito. Andrea, vai, allora? Di poter parlare solo alla Zanzara, perché un discorso così lo può fare solamente alla Zanzara, ma non chi? Lo può fare chi? Giovanardi. Ma che vuol dire che lo può fare solo alla Zanzara? Non ho capito. Nel senso che è un discorso stupido, è un discorso che non ha nessun senso. E perché non ho capito, discorso... che si fanno solo discorsi stupidi qua, che sei scemo? E tre lauree te le do in testa, te le do, Andrea. Ci sentiamo domani, vai, chiamami domani, che mi sa che tu sei uno che fuma erba, secondo me, Fuma, ovviamente. Eccolo lì, a domani, ciao. Facciamo una trasmissione! Una trasmissione da urlo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, libera la voglia di fare.